Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Buongiorno signori miei e soprattutto buon anno a tutti. E oggi voglio iniziare il nostro viaggio nei mondi della voce prendendovi per mano e accompagnandovi in un luogo dove le sonorità e le suggestioni vocali abbracceranno la vostra anima e i vostri sensi. Ed ora silenzio. Il reverendo Kirk Franklin, insieme a Mary J. Blige, R. Kelly, Bono, Crystal Lewis e tanti altri, hanno qualcosa da dirvi. This is for that little child with no father. For that man that doesn't have a place to stay. And for that little boy living with AIDS. Can I tell you a story? Tell you a story. You can lean on me. A man, oh yeah, standing on the corner. He has no home, he has no food, and his blue skies are gone. Yes, it is. Can you hear him crying now? Can you? my brother. Here's my shoulder. You can lean on me. Hallelujah. Signori miei, quale miglior inizio, pervasi da queste voci, ma perché i nostri reverendi non fanno così? Sarebbe fantastico. Questa è in una chiesa ad Harlem, pensate, una registrazione in diretta. Ah, bene, scusate, sono veramente ancora emozionato ascoltando queste voci. E allora, eccoci, pronti per cominciare un nuovo anno insieme, grazie a tutti quelli che ci stanno dando fiducia e io vi ringrazio davvero. Al mio fianco mi ha raggiunto un altro grandissimo attore, doppiatore, lo sapete, l'inizio della trasmissione è sempre così, vi leggo qualcosa che riguarda la sua biografia. Lui nasce a Roma il 28 ottobre del 1964. Come dicevo prima, è un doppiatore, un attore, fratello di un'altra grande doppiatrice che avremo presto, me lo auguro, si chiama Laura, non diciamo il cognome, è cugino dei doppiatori Massimo e Emanuela e Riccardo Rossi. È stato il vincitore del premio Voce Maschile dell'Anno attribuito dal pubblico al Gran Gala del Doppiaggio Romix, edizioni 2005-2007, vincitore del quarto premio Ferruccio Amendola, edizione 2008, e neo vincitore del Gran Premio Internazionale del Doppiaggio come voce maschile per una serie importantissima che è The Nick, dove doppia Clay Owen. È soprattutto noto per essere la voce, tra gli altri, di Johnny Depp, pensate un po', di Ben Affleck. Ogni tanto è condiviso questo personaggio con il cugino, ma una cosa in famiglia, con Riccardo Rossi. Colin Farrell in alcune interpretazioni, Christian Bale in Ritratto di Signora, tantissimi, veramente, veramente tanti. Lui è qui al mio fianco ed è Fabio Boccanera. Benvenuto a Voice Anatomy, caro Fabio. Grazie. E io ho avuto la fortuna di condividere con lui gli inizi della mia carriera. Dopo la parentesi a luci rosse del 1980, cominciai a doppiare delle serie e insieme ci siamo avventurati in General Hospital. Qualcuno sì. Se lo ricorderà. Innanzitutto voglio fare un buon anno come capitano Jack Sparrow. Eccolo, ormai pervaso da questo. Sì, ormai sono il capitano Jack Sparrow. Faccio un buon anno a tutti e auguro un viaggio verso un anno meraviglioso con la perla nera. Beh, vedete, questa è la fantasia della voce per radio. Puoi essere chiunque, tanto sì. Non ci stanno guardando. È un po' come il nostro lavoro, che sì. Possiamo fare ed essere chiunque. A noi ci ha rovinato internet, però uno va a vedere anche le facce adesso. Purtroppo andare a vedere se gli assomiglia a sta voce. Quello è il problema nostro. Quello perché effettivamente bisogna far sparire le foto dei doppiatori da internet. Ma infatti, quando mi chiedono: ma tu hai conosciuto Colin Farrell, Clay Owen, Johnny Depp? Dico no, ma sinceramente neanche mi sono interessato. Loro hanno tentato di sapere. Sì, loro hanno provato. Ma poi uno ci scherza, invece è vero, loro controllano attivamente e fattivamente il doppiaggio dei loro film, soprattutto in Italia, sì. Perché dà il là per il doppiaggio in tutta Europa. Prendono come punto di riferimento proprio l'Italia, sì. Si fanno dei provini spesso con loro non presenti, ma sì. Presenti personalmente dall'altra parte del mondo, si fanno dei provini anche sì. In link con Los Angeles, con New York, e loro ascoltano attentamente. Sì, so che alcuni attori si interessano di chi li doppia nel mondo e in Italia, ecco, soprattutto diciamo in Italia. Tu hai cominciato a 4 anni, nel 68, sì. Dove c'è stato già il ridoppiaggio di un film di animazione di Bambi, sì, e tu facevi Tamburino. Tamburino, sì. Già un ridoppiaggio di quel film addirittura c'è stato? Sì, all'epoca sì. Perché adesso magari succede ogni tanto, perché magari si trova di fare una versione 5.1 in Dolby Surround, eccetera, allora si ridoppiano certe cose mantenendo la versione precedente. Tecnici, è vero. Sì, infatti è una cosa che da una parte, ecco, io ogni volta che dico, ma è strano ridoppiare cose che hanno vissuto sì. Emozioni. Però questa, sai, diverse. Per tutti questa è quella originale, magari presto. Certo, però tu hai cominciato presto. Come Jack Sparrow. Sì. Però noi sappiamo che è sempre più difficile rifare le voci senza i corpi davanti a noi. Sì. Noi abbiamo la possibilità invece di far ascoltare un momento del tuo Jack Sparrow. Perché, insomma, vediamo un po'. Vai! Vogliamo fare 3 scellini? E lasciar perdere il nome? Mi conviene stare calmi! Assumiamo il comando della nave! Fermi! Siete presi! Figlio, sono il capitan Jack Sparrow. Comprendi? No! Non bene! Ferma! Non bene! Che cosa fai? Hai dato fuoco al cibo, alle palme, al rum! Sì, ho bruciato il rum. Perché hai bruciato il rum? Credi a me, amico. Se ogni città del mondo fosse come questa, non ci sarebbe uomo infelice per amore. Scarlett! Non so se lo meritavo. Giselle! Chi era quella? Chi? Questo forse lo meritavo. Questo lo meritavi sicuramente. C'erano le scene perché lui ogni posto dove andava incontrava qualcuno che lui aveva sedotto e non si ricordava. Io credo che il nome mi chiamo Jack Sparrow equivalga a dire mi chiamo Bond, James mi chiamo Bond. Perché certi film sono veramente epocali. No, poi devo dire, farne parte è bellissimo. Però hai cominciato con Tamburino non è che stai finendo, siamo arrivati a Jack Sparrow, però noi dobbiamo farlo questo percorso. No, abbiamo fatto una bella Sei avvicinato a questo mondo? A parte qui abbiamo detto spesso la famiglia può aiutare, famiglia, certo, però certo, non no, solo, visto che insomma io sono uno degli esponenti di quelli che non aveva la famiglia, si può fare. No, io ho iniziato tramite i miei cugini, siamo entrati io e mia sorella, e devo dire io all'inizio neanche volevo farlo questo mestiere, non... perché comunque ero molto timido, sai, tu sai benissimo, quando siamo in sala non siamo soli, quindi noi non uno siamo vergogna, soli, sembra un film X-Files, c'è un po' di vergogna. Io non amavo molto questa cosa, al contrario di mia sorella che invece ha sempre voluto farlo, però poi piano piano, e poi all'epoca c'erano comunque, dovevi fare la scalata, c'erano le famose categorie. Prima... oggi non ci sono più. No, adesso il doppiatore è una cosa o l'altra. Il brusio che è il rabarbaro, come lo chiamiamo. Forza Roma, applaude il nostro fonico. Avete imparato a conoscere che questa trasmissione intanto diventa goliardica da questo punto di vista, perché va in onda la domenica e si alternano i nostri tecnici del suono straordinari qui a Radio 24. Uno è Valerio, che viene quando la Roma non gioca in casa, ed è una cosa di cui dovrò lamentarmi prima o poi, oppure viene ogni tanto come oggi. È una regola fondamentale. Sì, sono queste, anche tu c'hai questa situazione. Io non verrei anche quando gioca Lazio. Comunque non è una trasmissione regionale. Alessandro viene perché è educatissimo ed è bravissimo. E qui c'è questo rapporto un po' di amore e odio, no? Magari non ama il calcio. No, ma io non lo seguo neanche io il calcio, non riesco a capire. Colgo l'occasione per salutare dall'altra parte del vetro sempre le persone che ci accompagnano, i nostri autori, la capoautrice Alessia Navarro, accompagnata dal grande Damiano Fabiani Berti, con tanti di cognome. Valerio l'ho già detto e mi dispiace averlo ripetuto. Gaia, la nostra capo redattrice, e alcuni ospiti che sono già pronti dall'altra parte del vetro, come il grande Diego Cossu, che è tornato a trovarci. Oggi faremo una puntata sulla voce, ragazzi, spettacolare, perché racconteremo la storia di Demetrio Stratos. Chi la conosce sa perfettamente ed è già pervaso da un brivido lungo la schiena. Per chi non lo conoscesse, signori, rimanete incollati con l'orecchio alla vostra radio, perché sarà un percorso da sogno nel mondo della voce. Ma a proposito di voce, torniamo al nostro amico Fabio Boccanera. E ti dicevo, c'è questa cosa. E come sei riuscito a conciliare la vita di ragazzo giovane, qualunque, a scuola col doppiaggio? Scuola, doppiaggio, tutta la vita così. Diciamo che era un ambiente dove ci divertivamo tutti, eravamo tutti bambini. Succedeva di tutto, anche tu lo sai, perché poi si giocava a pallette nella hall, nelle sale, con c'era la palletta, classica palletta fare di carta, c'era il tempo per fare. È quella cose che dovremmo tornare a fare ogni tanto, sai, ma proprio come uomini. C'era entusiasmo, comunque. Qual è stato il principale punto di svolta, Fabio, della carriera, insomma? Quando sei diventato grande. Sì, quando sono diventato grande. E poi la voce cambia. Ma diciamo, ho iniziato a fare il primo protagonista, dopo appunto, come ti spiegavo, che prima esistevano queste categorie, tu dovevi scalare la montagna per arrivare ai protagonisti. E dopo tanti anni di gavetta, il primo film da protagonista era un film della Disney e si chiamava, mi ricordo ancora, Pussi la balena buona. Sandro Tuminelli. Io ancora mi stupisco di certi titoli, no? Sì, Pussi la balena buona, che io dico non lo conosco, c'è qualcuno che urla poi. Sì. Dice, come non lo conosci? È stato il mio primo protagonista, e poi da lì ho iniziato con le varie cose, poi fino a diventare grande sono uscito fuori con Ben Affleck, il grande Johnny Depp. Ma Johnny Depp è veramente... Tu dici, a chi faresti fare a Johnny Depp, perché fa qualsiasi cosa, ed è la difficoltà proprio nel doppiarlo, la mia difficoltà è questa, spesso lui fa ruoli che sembrano da pagliaccio, ma in realtà no. Come il Capitan Jack Sparrow sembra un pagliaccio, ma è sempre il Capitan Jack Sparrow. E lì la voce cambia, tu lo sai, la ingoli di più, la stringi di più la gola, la rendi più acido. Il problema è che tu lo sai, quando ci danno, quando facciamo questi personaggi, non dobbiamo mai uscire dalla linea. Perché altrimenti fai la figura, diventi un pagliaccio, non devi essere un pagliaccio. Cioè, no. La difficoltà è quella, rimanere su quella linea, come in Alice, Alice nel Paese delle Meraviglie, uguale. E devo sempre, la difficoltà è rimanere sempre. Qual è il film a cui sei più affezionato di Johnny Depp? Beh, di Johnny Depp, non so se Jack lo Squartatore, forse. Jack, anche quello fu un bellissimo film. Sì, quello penso sì, perché fu uno dei primi abbastanza difficili che feci con lui. E poi ormai lo accompagni da quanti film ha fatto insieme a te? Tanti, tutti. Adesso proveremo a sentire se Johnny Depp è in linea per intervenire da qualche parte. Nel frattempo voi restate in linea con Voice Anatomy, perché è appena cominciata, tra poco. Lasciate pure i cappotti dove capita. Cosa? Oh sì, tengo il riscaldamento al massimo qui perché i miei operai sono abituati a un clima caldo. Non lo sopportano il freddo. I suoi operai chi sono? Ogni cosa a suo tempo. Allora, non mi interessa. Dovrebbe interessarle, perché io sono quella che vincerà il premio speciale. Sembri molto sicura e la sicurezza è fondamentale. Ho sempre pensato che la verruca fosse un tipo di porro che viene sotto i piedi. Voice Anatomy. Bentornati, signori miei, a Voice Anatomy. Al mio fianco sempre Fabio Jack Sparrow Boccanera, alter ego italiano di Johnny Depp. È in uscita, prima della pubblicità, ci siamo ascoltati un'altra tipologia vocale su Johnny Depp, sì, che era quella della Fabbrica del Cioccolato. Lui era brillantino, bellissimo, pazzo, sì, non ingolato, non, no, appunto, non cattivo, era simpatico. Era quella difficoltà di cui parlavo. Lui aveva, poi devo dire una cosa a lui, Johnny Depp, a proposito, gioca con le corde vocali in maniera, spesso nei versi che fa è inimitabile. È difficilissimo, sì, ed sono le cose più difficili da seguire quando si fa un film, esatto, si doppia un, esatto, film. E qui la Fabio Cioccolato è stato tutto, perché parlava tutto, venite, prego, prego. Sì, era quell'affettato, sì, era cattivo, sì, dovete subdolo seguirmi, quel falsetto però sempre pieno di ricordi, come si vedrà come nel film, perché lui ha questa figura del padre severo che era un dentista. E un altro pazzo scatenato è quello di Alice nel Paese delle Meraviglie. Sì. Adesso poi tornerà Alice attraverso lo specchio. Sì, tornerà. Adesso ho già fatto il trailer. Anch'io ho avuto la fortuna di farlo. Ma non posso parlare. Non anch'io. Non si può parlare. Perché anch'io ho fatto Sacha Baron Cohen. Beh, non si può parlare. Non possiamo dire nulla perché. Però c'è il trailer. Come dicevamo, le impronte digitali. Sì, non possiamo dire mai niente. Siamo ormai circondati. Era la cosa bella del nostro mestiere. Potevamo dire, sapete, ho fatto. Non si può dire. Non si può dire. Però c'è il trailer in giro, per cui parla quello per, sì, noi. Sì. Ce lo sentiamo un pezzo di Alice in Wonderland di Tim Burton, caro Valerio? La carrozza, mia signora. Il cappello. Ma certo, tutti vanno a cavallo o usano il treno, ma il modo assolutamente migliore di viaggiare è a cappello. Ho fatto una rima. Oh, adoro viaggiare a cappello, Alice. Ma solo Alice, per favore. Buon viaggio, a vederci. Ed ecco, un altro tipo di vocalità, anche questa che sta fra la gola di Jack, sì, Sparrow e la testa di, sì, sì, sì, della Fabbrica del Cioccolato. Sì. Anche questo. Lui spesso cambia, però si mantiene un po' sulle sue tonalità, le, sì, cambia a piccole cose che magari, sì, noi riusciamo a capire. Anche lui è cresciuto tanto dal primo film con Tim Burton, che, sì, era. Lì hai fatto sempre tu, Edward Mani di Forbici, no? No, lì no, lì facevo l'antagonista. Ah, ma che era. Sì, sì, facevo l'antagonista. No, io ho scoperto di aver fatto per la prima volta Johnny Depp in Nightmare 1. È vero, c'era un giovanissimo Nightmare. Ed era Nightmare, il fidanzato della protagonista. Sì, sì. Ed era giovanissimo. Lì è vero, se andate a controllare ci, sì, sono questi inizi folgoranti. Anch'io, sì, feci, sì, Nightmare, ma morì dopo subito. Ma anch'io era lì, l'inizio. Anche lui. No, lì. Ma io sono morto, credo di aver detto soltanto in quel film, ho detto... Sì, sì, e basta. Vero, ci sono queste cose. Ti ho messo su una parte che poi ritornerà. Ritornerà, muore, non è vero. Da Nightmare 2, 3, 4 c'è stato più nessuno, esatto, che gli assomigliasse a questo, è vero, qua. È vero. Però insomma, è vero, va bene, faccio parte di quel cast. È vero. Senti, un personaggio che invece non doppieresti più, c'è? Cioè... No, no. Che t'ha annoiato, che dici, quando ti chiamano dici, ma no, no. Tanto no, ci ascoltano soltanto poche centinaia di migliaia di persone. No, no. Quinto emendamento. Li farei tutti. Li farei tutti quello che ho fatto. Dovete sapere che Fabio Boccanera è uno che parla prima di pensare peggio di me. Sì, io purtroppo abbiamo questo. L'ho solamente avvertito delle centinaia di migliaia di persone che ci ascoltano. No, lì no, è stato un freno inibitorio, no, non indifferente. Questo è un mio problema. C'è mia moglie Valentina, che saluto, insieme a mia figlia e mio figlio come Federico, no, Giulia. Anch'io mia sorella. E mia moglie, devo dire, grazie a lei che mi tiene molto a freno. Sì. Dice, pensa. Mi sa che hanno fatto la stessa scuola della mia. Mi sa che abbiamo... La mia c'ha un casco adesso. Sì. Quando io comincio a parlare in pubblico mi parte de testa, come sì, si dice. Sì. E sì, un calcio sotto. Una volta, avvertendomi che stavo esagerando, mi ha dato un calcio sotto la sedia. Ma si è visto il piede che usciva dal tavolo. Ah, sì. Per cui non ho potuto più fare far a meno finta di niente, di dire, amore, no, lo so, mi sto controllando. Non è si vero, capisce per quale motivo si è spinta così sotto. Ma noi maschietti del resto, ogni tanto abbiamo questa difficoltà. Come hai detto, dietro grandi uomini. Esatto, questo è grandi donne. Qui c'è una grande donna, ma c'è un uomo tranquillo e normale davanti. Grande Fabio, invece uno che vorresti doppiare non hai fatto. È uno che vorrei doppiare non ho fatto. Mi sarebbe piaciuto. Quelli della tua età bravi li fai tutti, in effetti. Mi sarebbe piaciuto Sean Penn, devo dirti la verità. Ah, del cugino Massimo Rossi, sì, che avremo presto qui a questi perché microfoni. Perché lo vedo molto nelle mie corde, nella mia follia, nella... Sai, per fare certi... Non a caso mi danno tutti i personaggi. È come Loris Loddi. Tranquilli, no? Loris Loddi che abbiamo avuto qui ai microfoni e la ci follia sua naturale. Ci danno tutti i personaggi tranquilli. Perché sì, sì. Abbiamo dentro questo... Quando poi abbiamo tutti una vita privata. Quando entriamo in quella sala, tu lo sai, scatta come un pulsantino... Ma noi ci serve come tavolo di psicanalisi, esatto, perché lì puoi essere fuori... cattivo, puoi essere sì, buono, puoi essere posso essere tutto. Puoi essere tutto e lì te sfoghi. Esatto, poi infatti usciamo l'attore... ed è finita. Sì, ma è meglio perché ti fa una sorta di Xanax, nel senso che riesci a stenderti su quel microfono come sul lettino e tirare fuori in ognuno di noi la parte che abbiamo. Ognuno di noi nasconde la parte cattiva, sì, sì, la parte ironica, la parte dolce, eccetera. Lì la sfoghi tutta quanta, esci e ritorni l'uomo normale che è sa vero, controllare gli elementi. Negativi. Spesso mi domandano ma come fai ad entrare a fare le stesse cose che ha fatto quell'attore? Io l'unica cosa che rispondo è quando vado lì davanti, al leggio, davanti a quel microfono, io tiro fuori le mie emozioni, le mie sofferenze, tutte queste cose le porto lì. Praticamente in questo periodo domenicale di molta sofferenza riesci a doppiare benissimo certe situazioni. Beh, voi mi avete toccato quel link, la sofferenza riesce a portarla in sala di doppiaggio dal lunedì al venerdì. Dal lunedì al venerdì, esatto. Importante, magari io quella la porto sempre a chi lo dici, fissa. A chi lo quella dici. Senti, come ti prepari tu tecnicamente a doppiaggio? Oppure entri in sala e ma dici, diciamo vado? Che non sempre, ma alcune volte mentre sono in macchina provo a fare dei la cosa che mi hanno detto che fa molto bene fare così. Attenzione, c'è Diego Cossu che è già arrivato. Mi hanno detto che per scaldare un minimo le corde vocali. Vieni Diego, vieni. Dice, vieni poi vieni. Non lo so, ora mi frusterà sicuramente. Diego Cossu, lo sapete, è già stato da noi, un grande vocologo, chirurgo della, non solo della voce per quanto riguarda l'apparato respiratorio e non solo, si sta infilando la cuffia. La cuffia. Il quale dopo faremo questo percorso meraviglioso intorno alla vita di Demetrio Stratos. La voce per... Benvenuto Diego Cossu. Ciao a tutti, grazie, grazie infinite Pino. Grazie a te di essere venuto, poi vieni da Torino. Da dove vieni oggi? Lugano? No, Torino? No, Torino. Ah, sì, dalla nebbiosissima Torino. Innamorato mezz'ora, di questa trasmissione, come spero tanti suoi colleghi vocologi, chirurghi, amanti della vocalità perfetta. Assolutamente. Dopo con lui faremo un percorso bellissimo e affascinante intorno alla voce per eccellenza, che è quella di Demetrio Stratos. Dico, è quella perché rimane quella, anche se il nostro Demetrio Stratos ci ha salutati nel 79 ormai. E nonostante ciò siamo ancora qui che ne parliamo con devozione, con ammirazione. Veramente credo che sia stato una una cosa fantastica enorme. Averlo avuto in, questo, in questa terra. Ma dopo lo racconteremo in tutte le sue sfaccettature. Il dottor Boccanera, questo sì, signore che si prepara in macchina vocalizzando in quel modo, Diego. Ma è la minima cosa che faccio. Non ti salvare non so. In angolo. No, no, assolutamente. Fabio, abbiamo qui uno studioso. Da domani farò tutte le cose che. No, io non voglio assurgere a nessuna cattedra, non voglio dire assolutamente nulla di più di quello che è il buon senso. Allora, certo. Riscaldare la voce è un dato di fatto fondamentale per tutti coloro che la usano, prima di tutto. Certo. Ci sono posti dove si possono fare questi tipi di riscaldamenti e posti invece magari dove si dovrebbe evitare. Il vetro assorbe tantissimo. Ah. L'energia acustica. Ah. E quindi stare in macchina dove c'è un forte rumore concorrenziale con dei vetri che ti assorbono anche la tua struttura acustica, tu hai bisogno proprio di autosentirti, cioè di avere quella certo. propriocezione. Certo. Un'altra cosa che è peggio della macchina è lavorare in condizioni di polveri, di umidità eccessiva o troppo o di secchezza eccessiva e con gli scambi, i cambi di temperatura troppo repentini. Quindi noi Pino lavoriamo con tutte queste cose praticamente. Hai capito? Dei mostri siete. Dottor Diego Costo ti farà la ricetta che puoi scaricare perfettamente, sono tutti medicinali. Quella è importante. Ce l'hai la tessera sanitaria, c'è sì, tutto quanto. Tutto la prossima posto. Volta che ti becco in macchina fa sti vocalizzi inutili, capito? Però, fa vedere che è un professionista al semaforo. No, è Boccanera che si sta preparando per entrare in sala e usa la voce. Quindi così lo devo fare a casa nel a silenzio certo. ambiente, insomma, temperatura sarebbe ideale. Sarebbe preferibile. Ma siccome a casa, quando noi ci svegliamo per andare a un turno di doppiaggio, ti svegli alle 7, se comincia a vocalizzare dentro casa, la moglie va da un avvocato. Esatto. E ci troviamo esatto. a ricominciare da capo. E lo farò quando riscaldo il latte mia figlia. Benissimo. Grazie per questo tuo intervento. Prego. Fulmineo, ci risentiamo fra poco. Invece no, tu Fabio Boccanera resta qui. Io resto qui. Vocalizza intanto, vocalizza. Andiamo in pubblicità, grazie. Mi ero prefisso di salvare la città, ma con l'aiuto di Elettra ho salvato solo me stesso. Ma ora credo fermamente che tutto è possibile. È in Braille. E a volte la fede è tutto quello che ti serve. In quanto a Daredevil, beh, presto il mondo conoscerà la verità. Sanatomi. Eccoci, come promesso e come sempre, signori, Pino Insegno qui, Radio 24, Voice Anatomy, questo viaggio attraverso il mezzo di comunicazione più importante al mondo, che è la voce che ho imparato a capire che è uno strumento affiato. Ci siamo salutati con una bella interpretazione di un film meno fortunato, devo dire, di Ben Affleck, che è questo Daredevil, l'incredibile Devil, che è uno dei pochi supereroi che non ha avuto seguiti finora. No, non se ne è sentita la mancanza. No, però era peccato. Un bel film, diciamo, dai. Sì, sì, no, il film era invece, sicuramente piacevole. Proprio Pino, a te voglio mettere un po' in imbarazzo. C'è un film. Ma che cosa sta succedendo? Belli e dannati. Ah, Dio, sì, è vero. Che ricordi. Allora, questo ci lega ma molto. Ma se io ti dico. No, Belli e dannati, il film di Gus Van Sant con Keanu Reeves che facevo io e River Phoenix che facevi esatto. tu. Infatti, ma se io ti dico. Sì. Fuoco. C'è il deserto. Fuoco. La notte, sì. No, io volevo dirti io ti amo. Cosa ti ricorda questa frase? Guarda. No, spiegalo tu perché al dunque, pubblico. Il film è un film bellissimo. Chi lo ha visto lo ha sicuramente amato, uno dei film forse più capibili di Gus Van Sant. Sì. E dove io facevo Keanu Reeves, giovanissimo. Questo, e lui, River Phoenix, come ho detto, un attore che ci ha salutato troppo presto. Un grandissimo. E il direttore di doppiaggio ci disse: guardate, siete stati scelti voi due. Ora, io conosco voi due. Sì, fu una. È un film d'amore. Sì, e dico: sì, ma sì, che sì, problema sì. c'è? No, ma è un film d'amore fra voi due. Sì. Ora, con tutto il rispetto, non parliamo di eterosessualità assolutamente. E non siamo neanche omofobi e quant'altro. No, ma infatti eravamo due ragazzetti. Diciamo che Francesco Vairano, possiamo dire, sì, che ringraziamo, aveva dei grossi dubbi. Sì, perché dice me lo disse, dice Fabio, io voi non dovete... Ho avuto dei dubbi, perché mettere... Voi due che cazzeggiate, perché questo è il termine, fu proprio così. Lasciatemi passare questa prima piccola parolaccia dell'anno nuovo, perché voi ci scherzate su, non va preso in giro, non va... È solamente che eravamo in imbarazzo io e Fabio, ma non peraltro, perché... Ci conosciamo, stiamo sempre la mattina, sì, ci contiamo, sì, allora eravamo ragazzetti, con chi stai, con chi non stai, eccetera. Sì, sì. La nostra c'erano dei grossi dubbi. La nostra virilità poteva essere messa in dubbio. E allora io gli facemmo una domanda durante questa scena. È stata una scommessa vinta alla fine. Durante questa scena del fuoco, dove dovevamo essere romantici uno con l'altro, e prima si doppiava insieme. Non potevi fare prima uno e poi l'altro. Ci veniva da ride come dei pazzi. Lui che mi guardava e mi diceva ti amo. Io che dovevo dire ti amo a lui e alle Gio, abbracciati, perché eravamo abbracciati. E anch'io dovevo continuare col mio respiro a rendere vivo questo amore intorno al fuoco. Per cui io che facevo bellissimo. Mi manchi anche, però non vorrei che tu mi amassi, perché lui era il figlio del sindaco, non poteva essere. Beh, una cosa, a un certo punto non riuscivo a dirti amo a lui, e io ho chiesto Francesco Vairano, come posso dirti amo a bocca nera, perché non è a River Phoenix, so Pino Insegno, lo dirti amo a bocca nera. E lui mi ha detto scusa, come lo diresti a una donna? Esatto. E fu un'illuminazione. È così, quando ami una persona la ami in tutti i suoi... Beh, questo è un ricordo personale, però legato a un momento è vero. Dietro quel leggio, come dico sempre, in ogni mestiere una persona si deve divertire. Divertirsi non significa ridere, non è che Diego Cossum in opera ride come un pazzo mentre taglia la gola a gente. Non è così, ma divertirsi vuol dire, come dice anche il grande Steve Jobs, ma dovrebbero dirlo tutti, cioè amare quello che si fa. E noi lo amiamo, crederci, e tu lo ami tantissimo. Hai doppiato anche un altro personaggio cult o cult, che dir si voglia, cult. Come media e media, perché media è latino, per cui mass media si dice. Non so parlare, le chiuse, non me lo dici. Noi faremo, confusione. Con quest'anno nuovo faremo delle piccole pillole di dizioni, in ogni puntata, un tutorial, non è vero, di 5 minuti con un bravo insegnante di dizione, per cui ci darà alcune dritte per la dizione perfetta, ma anche per gente che vive in maniera tranquilla e non fa questo mestiere. Hai doppiato Lost. Ah, sì, Sawyer. Lost, l'antieroe per eccellenza, Sawyer. Grande Sawyer, una bellissima una serie, anche quella cambiò le regole del gioco delle serie. Cambiò un po' tutto, sì. Anche se poi, come sempre, queste serie poi alla fine si perdono, non si capisce un granché. Verso la fine, si è persa però, moltissimo. Però lì mi sono divertito, perché lì ero io. Ero praticamente... Come sei tu? Avevo i capelli, perché se andate su internet Boccanera c'ha dei ricordi. Ce l'aveva, è vero. E è vero, anche lui li aveva già bianchi, però li aveva a 30 anni, grazie. Vedi. No, lì è bello, perché ero io. Un po' il mio carattere, un po' così. Sei Sawyer? Sì, mi sentivo molto Sawyer. Non dovevo fare grosse caratterizzazioni. Ci sono dei personaggi che ti assomigliano. Ero un po' sempre un po' ombroso, un po' chiuso. Che uno, se non ti conosce, dice mamma mia, quello è... Invece poi, uno ci conosce, è proprio così. Ecco, allora, se volete, se un giorno dovesse liberarsi, spero di no e non succederà, sappiate perché conoscere Fabio Boccanera intimamente, basta vedere qualche puntata di Lost e capirete che uomo avrete vicino. Che uomo è quello. Dalla mattina alla sera, che poi Lost è finito male, poi, insomma, cinque stagioni. Sì, io ho fatto tanto uno che moriva sotto una macchina a un certo punto. Anche lì. No, perché non volevo vedere, perché io certe volte voglio vederle le serie, guarda, per cui non so quando accadrà, ma quando io inizierò a dirigere avrai un personaggio per 20 anni, te lo giuro. Almeno per stare insieme. Invecchiamo insieme davanti alle zio. Esatto. Senti, è cambiato molto il modo di doppiare. Come cambia il modo di doppiare una serie oppure un film? Cambia, il film è istantaneo, la serie puoi comunque, secondo me, recuperare se qualcosa poi riascoltandoti la puoi fare meglio, poi forse non hai capito qualcosa, allora la puoi recuperare. Nel film devi concentrarti, devi mettere tutto te stesso, devi entrare dentro l'attore subito. Non c'è molto tempo. È una cosa che che ho sempre detto, l'attore quando fa 20-30 ciak, poi insomma tu lo sai, no? Noi andiamo la mattina alle 9 lì e ci troviamo al leggio a girare una scena drammatica, una scena d'amore, una scena... non è facile. No, è un lavoro di fare subito. Da artigiani. In piedi. Ma l'ombroso Fabio Boccanera, invece, nella vita quotidiana, quali sono i tuoi hobby? Cosa combini? Ma no, la famiglia. Direi un hobby. No, il calcio, senso... il calcio, ma ormai non lo stanno togliendo, sì. Gioco, il piacere di la guardarlo. Pesca, mi piace andare a pesca molto. Sì, perché tu sei un mi po' rilasso, silenzioso. Sì, mi piace ogni tanto uscire fuori dai rumori della città, della... le nevrastenie, si può dire. Puoi, no? Immaginare venire a pesca con me, che significa venire a pesca con te con un cerotto. Metto un bel cerotto sulla bocca. Non, anche un mio carissimo amico dice vado a pesca, ma non venire, ti ringrazio. No, grazie, guarda. No, io non faccio questo mestiere apposta, che mi fa compagnia, e spero di fare compagnia con la mia voce, altrimenti non sto zitto. È un problema quello. Qualcuno... Però dovresti essere amato dalle donne, perché le donne piace parlare, quindi vogliono il compagno che parla. Sì, no, le donne dicono sempre mi piace uno divertente. Ah, ecco, sì, anche la vita familiare mi è cambiata molto a casa, perché all'inizio, i primi tempi che ero fidanzato e poi mi sono sposato, l'abbiamo vissuto anche questi percorsi, sì, la voce è bellissima, mia moglie, che bella voce, cioè, adesso mi risponde soltanto sta voce, basta, ecco. Per cui diventa anche questo una cosa brutta. È bello anche questo, dai. A tutto c'è un'abitudine. Che succede in futuro, Fabio? E il futuro lavorativamente parlando, dovrei fare Pirati 5, a proposito del grande Jack Sparrow. Ah, si può dire? Beh, questo penso, non ho detto cosa succederà. No, che ne so, perché... Ma questo si legge, Star Wars, anche su internet si legge, dovrebbe uscire nel 2017. Di Guerre Stellari il nuovo non si può dare di niente, neanche che eravamo passati davanti alla sala dove lo stavano doppiando, per cui... No, ma non lo so, questo penso si possa dire. E poi ho fatto l'ultimo di Woody Allen con Joaquin Phoenix... È vero, un altro bravissimo attore che fai è Joaquin Phoenix. Hai lasciato il fratello. Ho preso... È morto in condizioni terrificanti. Mi è dispiaciuto tantissimo. Di droga. È un bravissimo attore. Perché era veramente bravo. Credo che River Phoenix e Leonardo DiCaprio camminassero proprio paralleli in quel momento. Penso di sì. River Phoenix era... E poi proprio nel locale di Johnny Depp, il Viper. Il Viper. All'uscita di quel locale si è... Beh, ma lui era, dicevano tutti, sarebbe stato diventato il nuovo James Dean. Lo era. Io pensavo che durasse di più il ricordo di River Phoenix, sì, ma i media sono forti come quelli di una volta, quando è vero. Bastavano veramente tre film per raccontare un'epoca e per caratterizzare un'epoca, come Jimmy Dean, eccetera, eccetera. Lui invece no, si è perso. Invece Joaquin Phoenix, nel Gladiatore l'hai fatto sempre No, non ero io, non ero io lì. Questo film però è bellissimo, è Walk the Line, Johnny Cash. Quello l'hai fatto, il film dove lui ha vinto... Straordinario, bravissimo. E quest'ultimo film, Irrational Man, è Woody Allen. È quello di Woody Allen. Invece ci sentiamo un altro Ben Affleck, invece questo di un film molto fortunato, un giallo molto intenso, che è Amore Bugiardo. Ah, sì, certo. Amy Elliott, lei è molto più che mitica. Lei è intelligente, ma non una snob. Lei mi provoca, mi sorprende. E anche, aneddoto per i lettori, possiede una notevole vagina. Ora, i colleghi mi dicono che lei non è ancora sposata, corretto? E non è ora di rimediare. Anche questo ti assomiglia. È bello leggere l'imbarazzo voi, perché non conoscete Fabio, lo state imparando a conoscere attraverso la sua voce, attraverso i microfoni di Radio 24. Ma è bello, perché vorrebbe dire ma si potrà dire questa cosa. No, questo è stato un film bello. L'amore bugiardo, bello, è Gone Girl il titolo originale, diciamo. Bello. E, sai, c'è una particolarità nel nostro lavoro, tu lo sai, quando ci spiegano, no? Noi, perché molte persone, i fan, mi chiedono ma come fate? Ma c'è un qualcuno vi spiega come fate? Molti anni fa, in realtà, noi per fare un film ci chiamavano, vedevamo tutto il film in originale, ci chiamavano i protagonisti e gli facevano vedere il film. Oggi non si fa più, però ti spiegano, il direttore, il doppiaggio ti spiega la tua parte, il film, cosa vuole o non vuole. E io generalmente non amo molto sapere tutto. No, un attore non deve sapere. Però una cosa voglio chiederti, sai, Fabio, non abbiamo mai fatto. Io voglio che sia tu a presentare. Normalmente gli attori, i doppiatori leggono qualcosa. Vorrei che tu presentassi l'ospite che sta per arrivare, leggessi la sua biografia e poi noi ci salutiamo e interviene lui. Mi sembra così una trasmissione più osmotica. Va bene? Va bene. Signori, vi presento con onore Massimo D'Apporto. Nato a Milano l'8 agosto 1945, è un attore e doppiatore italiano. Figlio del noto attore Carlo D'Apporto, ha seguito le orme paterne formandosi prima come attore di teatro e poi di cinema e fiction TV. Nel 1987 ha interpretato il tenente Fili dell'esercito italiano nel film di grande successo Soldati, 365 all'alba di Marco Risi, con Claudio Amendola e Ivo Garrani. Nel 1988 è nel cast del film diretto da Francesca Archibugi, Mignon è partita, con Stefania Sandrelli. Nel 1996 recita nel film Celluloide, con Giancarlo Giannini e Massimo Ghini, con la regia del maestro Carlo Lizzani. Nel 1997 è stato protagonista della serie TV Un prete tra noi e casa famiglia, interpretando Don Marco, con Giovanna Ralli nella prima. Nel 2002 è protagonista della fiction Mediaset Il commissario, per la regia di Alessandro Capone. È Claudius nella fiction TV storica del 2004, Imperium, Nerone, con Laura Morante. Nel 2006 ha interpretato il giudice Giovanni Falcone nel film TV di Rai 1 Giovanni Falcone, l'uomo che sfidò Cosa Nostra, diretto da Andrea Frazzi, in cui ha recitato a fianco di Elena Sofia Ricci. Nella stagione televisiva 2007-2008 è il protagonista di Distretto di Polizia 7, nel ruolo del commissario di polizia Marcello Fontana, per la regia Alessandro Capone e di suo figlio Davide D'Apporto. Ha anche avuto esperienze come doppiatore, prestando la propria voce dapprima al personaggio di Tim Curry nel film Mamma, ho riperso l'aereo. Mi sono smarrito a New York del 1992 e, in seguito, al personaggio di Buzz Lightyear, questo è il bello, Buzz Lightyear nei film Disney Toy Story, Il mondo dei giocattoli, Toy Story 2, Woody e Buzz alla riscossa e Toy Story 3, La grande fuga. Signore e signori, il grandissimo Massimo D'Apporto. Fra poco, sei stato straordinario. Mentre sei perso sulla pronuncia. Scusate, Lightyear, ma Lightyear, un po' Alberto Sordi. Però è bello, questo è bello della diretta. Santa miseria, è piacevole questo. Va bene, io ti ringrazio di aver presentato voi. L'ospite che ti succederà ringrazio su quella voi sedia. E scuso Massimo che ho sbagliato nel finale. Ma dai, ma non hai sbagliato sulla sua vita, è basato su un personaggio. Anche al lavoro succede così. A Jack Sparrow può succedere e te lo puoi permettere. Signori, Fabio Boccanera, tra pochissimo Voice Anatomy, Radio 24. Massimo D'Apporto, tra poco. Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Vi presenta Digital Radio Flash. Ciao, sono Alessio. Ma la Digital Radio è una nuova radio? No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Voice Anatomy. Beh, dopo la presentazione di Fabio Boccanera, in arte Jack Sparrow, non c'è sorpresa nell'ospite che ha preso il suo posto alla mia sinistra, si è infilato la cuffia, ha detto ma si sentirà la mia voce? Certo che sentirà, lui è abituato a sentirla dal vivo, visto il teatro, visto tutto il resto, le cose che fa. E allora Massimo D'Apporto, prova la tua voce al microfono, sentirà fastidio in cuffia. No, non mi dà fastidio, non ti mi piace? Dà, non mi torna. Io di solito la cuffia non la uso, la uso soltanto quando vado in piscina, ma qua no, insomma è un tuffo nelle onde dell'etere. Ma qui senti direttamente la tua voce in diretta quando esce, non è che arriva in ritardo, se arrivasse in ritardo sarebbe ma ho paura terrificante. Di sentire la mia voce perché probabilmente potrei anche decidere di cambiare lavoro quando sento la mia voce. Ma che cosa stai dicendo? dicendo? Ma tu ormai, alla tua veneranda età, dove la voce l'hai incontrata, l'hanno incontrata gli altri, ti ci sei confrontato, non sei come uno che dice, come le persone normali che non fanno questo mestiere, riascoltano la propria voce, dice non mi piace, che voce brutta, è perché non sono abituati ad ascoltarsi e arriva in un'altra maniera. Tu ormai insomma qualcosa l'hai fatta. Oh, io sono abituato a sentire la mia voce ormai, soltanto prima quando ho sentito Fabio Boccanera che faceva la presentazione, la mia presentazione, a un certo punto ho avuto un momento di stanchezza perché ho detto, dico, ma tutte queste cose ho fatto. E ne abbiamo levate anche qualcuna, perché sì, c'era amico mio, amico mio che non è stato ricordato, e era una pietra emiliana della storia. Amico mio uno, amico mio due, amico mio. Che te devo dire, amico mio? Voi pensate che ho utilizzato in quel periodo, con la premiata ditta, stavamo facendo Finché c'è ditta c'è speranza, che è una presa in giro di tante situazioni, e c'erano anche delle scene girate in ospedale. Avevo la fortuna che Massimo stava girando, amico mio, nelle vicinanze, per cui ho detto, Massimo, ti va di venire 10 minuti, scendi da un ascensore, io ti saluto, tu vai via, basta così, uno mi domanderà chi è, no niente, un amico mio, e finiva così. Ma lo ricordo, la citazione a Cinecittà, per cui ho utilizzato, devo dire senza vergogna, Massimo in un paio di occasioni qui, e una più importante per far mangiare mio figlio, il primo figlio Matteo, che era piccolo, non mangiava, e lui amava Toy Story, e l'ho detto, guarda, io ti faccio chiamare da Buzz Lightyear e non vai verso l'infinito ed oltre, altrimenti no come, allora guarda, se ti faccio chiamare ci parli, lui mangi, va bene, e fece, dico, Massimo, te prego, lo so che ci abbiamo un'età eccetera, ma me puoi far mangiare mio figlio per favore? Era un numero verde, le nuove applicazioni, come se ci fossero le applicazioni adesso sul telefonino. Io c'avevo l'applicazione D'Apporto e l'applicazione Marco Mete per quanto riguardava invece Roger Rabbit, sì. Lui me lo giocavo un po' con le ragazze, a te me ne sono giocato con mio figlio, ho detto ti dispiace, me lo ricordo, Massimo, me lo ricordo. E lui faceva verso l'infinito e oltre, come... fai il bravo, mangia e andiamo assieme verso l'infinito e tuo figlio e oltre e via così. E infatti oggi l'ho rincastrato qui vicino a me con l'anno nuovo. Allora, hai fatto tantissime cose, Massimo, però in effetti non parli tanto di te in giro, per questo mi ha fatto tanto piacere, perché sei abbastanza riservato, insomma. No, ma non c'ho voglia di parlare di me, insomma, a me poi se si parla delle cose passate sembra che già vivi di ricordi. È un premio alla carriera, ma sei vivente, per cui io spero di fare tante altre cose. Però è l'uomo dietro l'attore, la gente ha la curiosità, non da gossip ovviamente, le ultime amanti o i figli riconosciuti e quelli non o chissà cosa dietro. No, la vita dietro l'attore è sempre affascinante, perché magari la gente pensa uno continua a vivere esattamente come vive sullo schermo, ma non è così, uno ha gli stessi identici problemi. Però io ho notato una cosa, che se tu dici al pubblico che ti ferma magari per strada, che ha mitizzato proprio il lavoro dell'attore, e tu invece cerchi di sminuirlo, nel senso che gli dici com'è la verità sul tuo lavoro, ci rimangono male, sì, perché vogliono continuare a vivere nel sogno, nel mito, non tuo, ma dell'attore in generale, di quello che dello tu spettacolo, per loro in quel momento. È vero. Allora è meglio che continuare a recitare la parte di quello che racconta una storia bellissima che gli è capitata di affrontare nella vita, che è quella della tua vita artistica. Sì, si aspettano una quotidianità diversa. Qualcuno ti avrà chiesto pure una ricetta per strada mentre facevi Amico mio. Qualcuno ti avrà chiesto, c'ho mio figlio che sta poco bene. Hanno telefonato da Avellino. Dai. Sì, mi ha telefonato un signore che era un professionista, poi mi ha detto, dice, senta, era anche una telefonata abbastanza toccante, devo dire, perché mi ha detto, dice, mia figlia ha dei problemi motori, non riesce a camminare, quando la vede in televisione con un amico mio si è alzata dalla sedia e si è messa in piedi, e lei potrebbe venire qua, le pago la parcella. Ho detto, dico, guardi che io faccio l'attore, dico, certo, adesso in questo momento sto facendo un delinquente, se vuole vengo da lei sparando. Allora ha detto, dice, ma no, io le pago la parcella, dico, non posso venire. E allora cosa mi consiglia? C'erano le cassette VHS, rimette la cassetta più di una volta, prima o dopo i pasti, no, va chiesto. Gli ho detto, comunque questa è l'empatia col pubblico. Comunque ha bisogno, come si scrive, certo, ogni tanto. Sì, in effetti hai fatto un'analisi giustissima. Credo che la gente vorrebbe continuare quel sogno, vuole che tu continui. Infatti tante volte uno dice, vorrei conoscere, e se tu lo conosci dici no, lascialo lì, certo. Perché ha una quotidianità quotidiana, come sì, tutti sì. quanti, cioè non è che si evita dei problemi gastrici o problemi. Io avevo scritto uno sketch, la differenza fra la vita e la realtà, fra il cinema e la realtà, cioè per cui raccontavo un film inventato e poi le stesse scene di quel film nella quotidianità. Il cinema ha le dissolvenze e i stacchi, sì. le cose inutili si buttano. Certo. Un matrimonio di 30 anni dentro un film dura 2 ore, dura e mezza. Un matrimonio di 30 anni certo. in vita, Massimo certo. mio, dura 30 anni, tutti dura quelli. Tanto. Non esuli dal fatto di andare, di svegliarti la mattina e doverti lavare i denti, che invece nei film, se ci fai caso, Massimo, certo. come se svegliano, se baciano in bocca. Ora, sì, certo. io sfido chiunque, anche Brad Pitt stessa, da un bacio certo. subito in bocca a Angelina Jolie de prima mattina. Lo so. Perché non è che lui è esente chi da... ma chi lo sa? Ma no, dai, non è esente dalla sugna, dai, no, su, certo. per favore. Cioè, Firenze ma... sugna. Non è esente, scusa questa divagazione nella quotidianità, ma mi ci hai portato tu. Però anche così. Perché i nostri microfoni sono distanti, perciò... Che... No, possiamo parlare serenamente, no, non è nessun problema, qualsiasi cosa viene fermata. Ma io con l'angio lì farei un tentativo di prima mattina, se mi arriva l'afflato o meno, me ne può fregare di meno. Beh, dipende che serata. Qui c'è un applauso da parte del nostro fonico, perché si sta divertendo, questo è il suo modo di far capire che sta apprezzando questa conversazione certo. Lo so, io parlo privata da bar. Tutto un gruppo di maschietti che sono dei supporter certo, di questa certo. situazione. Non tanto di Brad Pitt come quanto di te, Jolie. No. Della Jolie. Ah, certo. ah, tu dici tenterei la sua di... Ma il sapore, sì, una donna sicuramente... Ma la donna è diversa in tutto da questo punto di vista. Io richiamerei Diego Cosso, essendo un medico chirurgo. No, scherzo, rimani lì, Diego. Perché insomma loro non fanno quello che facciamo noi, ma è un altro tipo di trasmissione, nel senso sembra che la donna sia esente da tutto questo. No, ma soprattutto anche in teatro, ad esempio, no? Quando ci stanno le prime, che mm-hmm. siamo tutti in tensione, ti capita di recitare anche una scena d'amore con una che è emozionatissima in quel certo. momento, anche se non lo fa vedere, e dentro c'è una tensione enorme e senti veramente un gruppo di pedalini che gli parte dalla bocca, però magari è bellissima. Ma lei, ma in quel momento ti fa pure pena e tenerezza. È successo questa? Sì, no, senza fare il dubbio e dici: ma se succede, magari sta succedendo pure a me in questo momento, perciò resistiamo uno con l'altro, perché dovremmo averci un attacco di svenimento l'uno con l'altro. Dici: guarda quanto si amavano quei due, sono svenuti mentre si baciavano. Sì, e invece è stata una questione di aria. Certo, di... Beh, può succedere, in effetti, succede sempre, sono problemi diversi. Certo. Pensato se ne parlavamo alla della tua carriera siamo sulla litosi forte, ma sei amico mio che ci ha trasportato lì certo. Ma questo è un altro discorso di quotidianità sì. È bello che la gente umanizzi, io sono sempre stato di quest'idea, la gente sì. deve imparare, non amo quei reality dove l'attore si mette a nudo e va su un'isola e fa vedere i problemi suoi eccetera. Vabbè, ognuno c'ha sì un... però li puoi raccontare, perché umanizzarti sì, è sì. la cosa più bella del mondo sì. Poi tu sei sempre stato considerato un attore pervaso di grande umanità, insomma, i personaggi poi che hai fatto e che hanno avuto grandissimo successo, se ci fai, se li vai a analizzare sì. dal prete al dottore, al commissario, e anche il pubblico che ha scelto, ossia sì. magari io ero portato a far comico, a me piace tanto il comico, ecco, far ridere mi piace tantissimo, io sono un come si dice, un raccontatore di storie, sì, ma poi non posso dire la radio, ma sono cazzaro, ecco, no, diciamo, mi diverto, è sdoganata la parola, e anche quando tra un ciak e l'altro io cerco di far ridere i miei compagni, poi dopo divento serio il momento che devo girare, oppure anche prima di entrare in scena è la 30ª volta che senti che quello dice la battuta e tu dici al tecnico: ma ancora ha capito che la odio, e entri in scena. Però poi dopo, quando sono in e scena, sono è serio, è nel tuo, beh, certo, e questo è nel tuo DNA, perché insomma sì, non lo dimentichiamo, tuo certo. papà, l'uomo di certo. mezza età, il grande Carlo D'Apporto, era il raccontatore di storie, un affabulatore da, certo. da quel punto di vista. Io e lui a tavola parlavamo solo attraverso le barzellette, veramente. Per cui normalmente uno poi pensa sdirazza, no? Perché c'è il padre in un modo, il figlio no, l'opposto, il papà comico, magari il figlio fa l'attore ma è drammatico, sì. o viceversa. Invece è bello scoprire questa cosa, e la sto scoprendo anch'io in questo momento. Io per necessità ho fatto l'attore più, come dicono, impegnato, no? Serio, perché di partenza dovevo essere comico. Io mi sento un comico, soltanto che vicino a mio padre ci perdevo, capito? Facevo una figuraccia. E come allora Alessandro Gasma con Vittorio Gasma, insomma, non poteva uscirsene, no, con l'Amleto immediatamente. Certo. E allora ho fatto questa scelta, per cui sono entrato in un territorio che mio padre non aveva assolutamente intaccato, né aveva seminato niente. Ecco. Allora, visto che questo blocco sta terminando, te la chiedo nel prossimo blocco insieme a te, un altro po' di minuti insieme. Sì. Abbiamo tre blocchi insieme, questo è il termine tecnico. E una barzelletta, una piccola barzelletta, preparatela durante la pubblicità. Allora, tra poco con Voice Anatomy e soprattutto con il nostro amico Massimo D'Apporto. Benvenuti, tutti convocati come tutti i giorni dalle 14 alle 15.30. Con me c'è Carlo Centa, Pierluigi Pardo. Ancora tu. Ancora tu, purtroppo l'unico. Cambiamo tutto, cambia il format, te l'hanno detto. Sì, un programma più serio. Molto più serio. Dalle 14 alle 15.30 tutti i giorni, da lunedì al venerdì. Tutti convocati, i principali avvenimenti dello sport dall'Italia e dal mondo. Forse stai esagerando però. O meno? O meno. Però a me piaceva. Vabbè, allora proviamoci. Per chi ama le tradizioni e per chi preferisce il cambiamento. Per chi vuole tenere la mente sempre sveglia e per chi non rinuncia alle sue passioni. Per chi vuole restare sempre aggiornato anche sotto le feste. Le nostre voci, le notizie, gli approfondimenti e le grandi storie sono con te anche in vacanza. Tanti auguri. Tanti auguri. Tanti auguri da Radio 24. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno, signori miei, qui a Voice Anatomy di Radio 24. Massimo D'Apporto al mio fianco. Stavamo scoprendo un po' gli inizi, a parte altri problemi di carattere medico di cui abbiamo parlato prima, con il grande papà Carlo D'Apporto, indimenticato almeno per alcune generazioni, conosciuto, amato, grande affabulatore, grande raccontatore di storielle. Io pensavo che Massimo, all'opposto, no? È andato sul territorio della drammaticità, delle storie più intense, proprio per non navigare all'interno di un mondo navigato lungamente dal papà. Invece no, scopro che Massimo invece avrebbe voluto cominciare come attore comico, perché si sente così. Ma hai fatto qualcosa di comico, a parte queste fiction? Teatro sempre, sì, teatro sempre è stato personaggi ironici, sì. Ma comico da monologo non l'hai mai tentato? No, ho fatto una commedia brillante con la regia di Giorgio Capitani e sempre con Elena Sofia Ricci, che era mio padre a 70 anni assieme a Philippe Noiret, ed era una commedia molto divertente, anche tenera in alcuni momenti, però proprio il comico non l'ho fatto. E in teatro ho incominciato facendo anche i siparietti, capito? Per cui l'aveva spettacolo, sì, con Pandolfi. Io bello. Ero uno dei ragazzi che facevano i siparietti. Da quanti anni hai cominciato, Massimo? Hai respirato da quando il primo vagito, però sì. Quando hai cominciato a prendere il via? Ho cominciato tardi, perché nel frattempo avevo iniziato l'università, però dopo il primo anno avevo capito che perdevo soltanto tempo e facevo delle cose vergognose a casa. Mi chiudevo in camera facendo finta di studiare, ma cosa facevo? Leggevo tipo 10 pagine del volume del Torrente, che era diritto privato. Ah, per cui preso come ripiego, ecco. E poi lo rimandavo, questo che avevo registrato, che durava circa un quarto d'ora, e io mi facevo i cavoli miei, però sentivo i miei genitori fuori dalla stanza attaccati alla porta, che sentivano che io parlavo bene, tutto registrato, e io stavo facendo i cavoli miei. Una stratagemma modernissima. E lei diceva: sta studiando, non lo disturbiamo. E io continuavo a fare i cavoli miei leggendo. E papà non voleva che tu facessi l'attore. Non voleva che facesse attore, anche perché lui sapeva cosa poteva, cosa siamo andando incontro. Ma infatti non ha voluto. Poi dopo, mamma invece era, mia madre ha detto: se sei felice fai l'attore, se sei felice segui questa strada. E sono andato in accademia a Silvio D'Amico, ho fatto gli esami, mi hanno fatto entrare. Gli esami di partenza, proprio la prima lettura, l'impronta, ho iniziato così: c'era legga questa pagina, allora c'era il titolo, La bottega del caffè, e io inizio di Goldoni. è la bottega del caffè. Dai, dico, bottega del la caffè. La bottega del caffè. Cioè non c'era uno al punto giù, manca uno strike. Ero emozionato. Manco un bollo, dico. Gli ho detto, mi mandi in palcoscenico che faccio quello che ho preparato. Infatti sono andato in palcoscenico e l'esame è andato molto bene. Devo dire, ma molto molto bene. Che cosa hai portato quel giorno, per curiosità, te lo ricordi? Dunque, io avevo portato di Ionesco, avevo portato il rinoceronte, una scena. Bello, testo magnifico. E poi ho portato di Pavese Vino triste, che era una poesia di Pavese. L'ho detta bene, infatti mi hanno fatto i complimenti proprio quelli della commissione. Chi era il direttore all'epoca quando sei entrato in accademia? Era Tian, il giornalista. Sì. Tian, e poi c'era, però c'era già Ronconi che insegnava, c'era Mario Missiroli. Beh, una grande accademia. Sì, era una buona accademia. Però l'anno mio sono usciti fuori soltanto Anna Bonaiuto, che ha lavorato poi veramente. Sì. E altri si sono persi nel tempo. Ma non è stata una grande annata? No, non ci è sono stata. State delle annate pazzesche, Carmelo Bene, Gassman, Albertazzi, ma nel periodo in cui uno sceglieva di fare l'attore con grande difficoltà, era una scelta difficile. Poi era uscito anche Piero Di Orio, senza scorciatoie, insomma. Però Piero Di Orio è scomparso per malattia, sì, purtroppo. Uno sceglieva di fare questo mestiere non perché pensava di diventare famoso, ma perché amava fortemente questo mestiere. Adesso invece uno lo fa perché divento famoso, c'è il reality che mi aiuta, c'è il talent che mi aiuterà. Si studiava. Invece si studiava. C'era il professor Scuri, che era un foniatra fantastico, era quello che aveva impostato la voce e anche aveva dato i consigli a Monica Vitti, tipo era arrivata con questa voce, Monica sì, Vitti, questa raucedine permanente. E voleva cambiarla, ha detto questa sarà la fortuna del suo lavoro, della sua vita, tenga questa voce. Queste belle vociacce, ma belle, belle davvero, perché Monica Vitti... Come la Cardinale, che c'ha una voce, sì, una voce particolare. Sì, sì, sì. Sono quelle caratteristiche che uno deve mantenere, infatti è stata la sua fortuna. Monica, ovunque tu sia, un abbraccio enorme. Sì. Con tanto affetto. Sì, enorme. Senti, però, la barzelletta a sto punto, scusami, siamo qui tutti e due comici. Sì, siccome parlava mio padre, ti racconto una barzelletta che raccontava sempre mio padre. Dai, dai. Raccontava questa barzelletta, l'ho cambiata un pochino per attualizzarla. Allora ci sono due amici che si incontrano per la strada, dice, ho inventato un apparecchio che dice la verità, una cosa fantastica, un computer fantastico, tu metti dentro una monetina da un euro, fai la domanda e ti dirà proprio la verità. Dice, ma non è possibile, sa tutto di te. Allora questo lo porta nello studio, mette la monetina e vabbè, fa la domanda, dov'è mio padre? E il computer dice, suo padre sta al cinema Bianchetti, sta vedendo Guerre Stellari. Fa, dice, una stupidaggine, vedi, non è capace, mio padre è morto 20 anni fa. Dice, guarda, non può sbagliare il computer, non gli puoi fare la domanda in un altro modo. Va bene, altra moneta. Dice, dov'è il marito di mia madre? Il marito di sua madre è morto 20 anni fa, suo padre si trova al cinema Bianchisi che sta guardando Guerre Stellari. Questa è bella, ma è elegante, sì, carina. Di mio padre. Poi aveva quel sorriso sordione mentre le raccontava. Non è come certi comici che ridono prima che dicono la battuta, no, perché hanno paura di non trasportare gli altri in questi lati. Lui mi faceva degli show e mi metteva seduto in poltrona e lui mi faceva il commento, come faceva Beppe Grillo, sì, essendo liguri tutti e due, mi faceva il commento della prima, la terza pagina, la cronaca. E io finivo dopo tre quarti d'ora che mi teneva, che avevo le mascelle e mi facevano male. E tu riuscivi a ridere con Pop? Cioè, ridevate molto? Io ridevo come un pazzo con mio padre, ma ridevo perché era di un'ironia impressionante. E poi alla fine, da buon ligure, mi diceva, qui a Montecatini mi avrebbero dato, e diceva la cifra che prendeva, sì, quando faceva questi show, e dice, tu hai risparmiato questi soldi oggi. Ho detto, papà, almeno questi del tuo figlio. Dico, papà, santa miseria, te ne ricordi un'altra di papà, un'altra sorella invece tua che hai fatto tu? E beh, divertente sentirti, perché siamo poi per radio sotto un'altra veste. No, adesso non lo so, cioè, ho paura di dire qualcosa di vecchio, capito? Ma che fregatene, però sei Massimo D'Apporto. Guarda, se finché ride le capisce tutto, il nostro tecnico del suono, che dico il nome, Valerio, poi imparerò anche il cognome, perché voi dovete cercare di evitarlo strada facendo, insomma, una barba incolta, un personaggio un po' particolare. Lui ride, si diverte. Allora, guarda, se si diverte lui, vuol dire che gli altri si divertono ancora di più, perché lui non capisce niente. velocissima, che sei velocissima. Il bambino fa alla mamma: che bella pelliccia, te l'ha regalata papà. Sì, si aspettava tuo padre, non dovevi ancora nascere. Sulla stessa, perché poi quando uno racconta le storielle vanno tutte in quella direzione. Sì, a questo punto è aperto un link. Una coppia di amici guardando una coppia di innamorati, uno dice all'altro: secondo te quello è felice? No, felice è più alto. queste brevi che a me mi divertono molto. Lei e lui al telefono, lei ciao, lui ciao, lei ciao, lui ciao, lei sono incinta, lui ciao. È bello che ci ridiamo uno di fronte all'altro, non avendo la reazione della gente, sembriamo due pazzi. Questo piccoletto, alto 1,50, che va in un'agenzia e fa, dice: lei che cosa vuol fare? Dice: io faccio il taglia boschi. Dice: il suo curriculum, ho fatto il taglia boschi per 20 anni nel deserto del Sahara. Ma nel Sahara non ci stanno alberi adesso? È carina, molto carina, no? Elegante. Ce n'era un'altra, poi se la siamo, non me la scuola. Basta. Senti un po', insomma, tu hai cominciato televisione, teatro subito? Sì, ho cominciato col teatro subito, sì. E poi ho fatto la primissima cosa che ho fatto mentre studiavo, e non potevo farlo perché in accademia, se sanno che fai qualcosa che ti pagano, ti mandano via. E invece io l'ho fatto, ho fatto un telefilm con Edoardo Nevola, pensa. Eravamo in coppia, facevamo due teppisti. Hai cominciato facendo il teppista? Sì, ho cominciato facendo il teppista. La tua nemesi? Ho finito facendo il commissario. Pensa un po' che sei arrestato da solo. Mi sono arrestato praticamente. Da solo. Sì. E poi da lì, insomma, poi il primo film, quello importante, è quello che hai fatto Soldati. Sì. Tanti anni fa. Beh, la famiglia di La famiglia di scuola. La famiglia di scuola. Quello è importante che ho fatto, che mi ha cambiato la vita, ecco. Che bello. Ecco, quello volevo chiederti. C'è stato proprio il salto. Sì. La tua sliding doors è stato quello. Sì, sì. L'incontro con Ettore Scola e quel bellissimo film che consiglio vivamente. Sì, ed è stato un caso fortunatissimo, nel senso che io ho detto all'agenzia con la quale lavoravo, avevo detto di portare le mie foto a Steno, perché avevo conosciuto Steno, il papà di Vanzina, dei Vanzina, e invece si sono sbagliati, un'assonanza, Steno Scola, sai, sono 5 lettere, e dice: ti aspetta per il provino, dico: ah, e dove devo andare a trovare Steno? Fa, dice: no, tu hai detto Scola. Ho detto: no, io ho detto Steno. Io Steno lo conosco adesso, ma Scola non lo conosco. E sono andato a Cinecittà, a Teatro 3, a fare quella, ero talmente deluso dalla cosa che ho preso il provino con molta tranquillità, fregandomene, ed è andato benissimo e mi è cambiata la vita. E il segreto del successo è quello. Come quando giochi a poker e sei tranquillo, puoi anche perdere, vinci. E il segreto del successo è anche la fortuna. Sì, la fortuna, però devi trovarti pronto, sì, Massimo. Certo. Io credo che tu, quando sei arrivato davanti a scuola, avevi comunque quella valigia piena. Sì, però la fortuna allo sliding doors è stato che, invece di Steno, con tutto rispetto a Steno, che è un grandissimo regista, era Scola e non lui, e lì ti è cambiata la vita. Ma se tu non fossi stato pronto, sì, certo, cioè dovevi andare a fare la spesa, invece tu vai davanti a Ettore Scola, dici: mazza, che fortuna. Sì. Ma che gli dica questo io? Comunque adesso la fortuna ti prende nei momenti di distrazione, perché se tu tutta la vita pensi devo avere successo, è giusto che tu lo pensi, l'ambizione sì, però devi avere dei momenti di distrazione ogni tanto, è là che interviene la fortuna. Questa è una bella chiave, è una bellissima chiave, sai, è bello, ci ragiono sopra e mi piace, l'avete ascoltata bene, io la rimanderei al loop, è una cosa del genere. La fortuna ti deve colpire quando sei distratto. Sì, sì. Sì. Credo di averla detta io questa frase. Sì. Sì, credo, è mia, no? Sì, è tua. Credo che sia mia, Massimo. Beh, la trasmissione è mia. Filmiamola assieme, almeno questo. No, Massimo, non lo so. Io credo di averla pensata più volte. Ora che tu abbia avuto la fortuna di ridirla, perché l'hai sentita sicuramente da me. Te, ma certo. Sai quelle cose che invidi molto? Queste sono quelle frasi belle che invidio molto. Ma tu durante la trasmissione hai detto già due o tre bellissime. Ma non erano mie. Questo è come il bellissimo saluto di Groucho Marx, grande ispiratore di Woody Allen e di tanti altri come lui, quando saluta e dice: abbiamo passato una bellissima serata, ma non era questa. È bellissimo. Io tante volte agli attori, soprattutto ai colleghi, per fargli rabbia, che ridessero poi, no, di questa battuta, alcuni dico: quando ti vedo ti invidio, e l'altro che inevitabilmente dice: perché mi vedi?

se saprai riempire ogni inesorabile minuto, dando valore ad ognuno dei 60 secondi. Tua sarà la terra e tutto ciò che è in essa. E quel che più conta, sarai un uomo, figlio mio. Senti che musica pure che c'è. Meglio male che c'è sta musica dopo la voce mia. Ma dai! Me la puoi mettere a posto? Me l'hai già messa a posto? Tutto a posto, eh. Hai fatto cosa? Abbiamo fatto tutto. Vedo che in cabina sono emozionati, piangono. È bella! Ma non piangono. Ma perché piangono? Dai, che dove? Vedi l'insicurezza degli attori, eh? Era un bel racconto. Certo. Fatto da una persona matura che l'ha letto per la prima volta. Cioè, sì, vabbè, ma viva Dio, cioè, io te la farei risentire. No, era diversa da quelli che magari leggono la poesia per far ascoltare la propria voce. Tu hai letto quella poesia, la capivi mentre la stavi leggendo, perché te l'ho messa davanti adesso, ma la raccontavi come un nonno a un nipote. Ti ringrazio, io sono nipote? Tu non hai nipoti? No, io perché ho scoperto oggi. Ho fatto i conti, quanti anni hai? Sì. Cioè, ma non è possibile. Sì, ho nipoti. Nipoti, ma non sono miei. Cioè, i due figli di mio fratello e di mia sorella. Tu hai figli? Lo sai che ti chiedo questa cosa da gossi? Non è da gossi, è sapere la tua famiglia. Io ho un figlio. Tu hai un figlio grande. Sì, Davide, c'ha 42 anni. Davide che fa il regista. Fa il regista. Pure lui, niente, non siete riusciti a placarlo, no, a cambiargli strada. No, anche lui ha messo il registratore in camera e tu sentivi sta studiando. Sì, no, ma ha usato lo stesso stratagemma. Ha voluto fare l'attore, secondo me, meglio che regista, perché è veramente un bel ragazzo, è alto. Sono due figli in uno, praticamente, perché alto è 90. Dice che ha preso da te il cognome. No, c'ha il piede destro. Sì, perché stavamo a letto un giorno, lui ragazzino, dicevo, ma assomiglia tutta a mia moglie, stava pensando. Stavamo sdraiati e vedo che tiene il piede destro inclinato tutto verso il materasso, no? Verso destra. Si è piegato. Sì, ossia, praticamente era mezzogiorno un quarto. Esatto, per dirlo, 12 qui. E guardo i miei piedi uguale, facevamo la stessa ora, io e lui. Facevamo la stessa ora, sì, è bellissimo. Sì. Cioè, lì ti sei accorto che è mio figlio. Che è tuo figlio. Se non c'è DNA che tenga lì. Niente. No, non c'è prova del. No, insomma, poi più sono passati gli anni, col passare del tempo mi assomiglia sempre di più, diciamo, soprattutto lo sguardo, il modo di fare, capito? È bello rispecchiarsi. Assomiglia tanto a Stefania, mia moglie, assomiglia moltissimo, c'ha la bocca, le labbra, per fortuna. Lui è carnoso. Mia moglie, sì, tu ci hai messo i baffi come me, ci ho messo il pizzetto per coprire. Certo. E quando tagliamo questo dice, ah, bocca, vabbè, non c'era, c'erano le pelurie. Qual è la vita parallela? Tu fai l'attore, ma cosa ami nella tua quotidianità? Ma nella mia quotidianità io amo, quando è possibile, leggere. Vedi, c'è anche questo fatto. Noi facciamo un lavoro che noi siamo fortunati, perché il lavoro è hobby. Questo è. Sì, è vero, il nostro lavoro è anche un hobby. Certo. E allora letture di copioni, di testi, poi se dovessi giocare a carte mi diverto molto a giocare a burraco, sì, online. Online, sei moderno in questo, sì, non ti piace i tre amichetti intorno, scusa? Mi diverte molto giocare testa a testa, perché là non c'è possibilità di imbroglio, perché anche online imbrogliano, si telefonano quando stanno in coppia, capito? E poi mi piace, non so, andare a pesca. Un altro pescatore. No, ma con la canna, con la canna da pesca. Sì, certo, con la canna. I nostri di lì stanno applaudendo. Certo, no, certo, tu immagini una pesca con la canna, dici che hai preso un sacco di roba. Ma c'era dove sta? C'è quello che va a pesca e butta il micello, dopo un attimo gli mangia l'esca. Allora butta qualcosa di più grande, un pezzetto di pane, glielo mangia, un pollo. Si butta un pollo, a un certo punto pure il pollo finisce, dei cerchi nell'acqua, esce fuori un pesce con la faccia di Aldo Fabrizi, no? Lo guarda e fa, che c'ha la sigaretta? Per cui no, Massimo D'Apporto, che non si tagli questa intervista dicendo che va a pesca. con la canna, perché altrimenti veramente non sarebbe serio. Per cui i tuoi hobby sono presi da te stesso, cioè stai con te, stai bene con te. Questa è una cosa. Io molto. Io mi diverto molto anche a parlare con me. Io mi do spesso torto, non è che mi do ragione. Litighi quando parlo con da te solo. Stesso. Molte volte mi chi vince quando litighi con te stesso? Quello che ti dà torto o tu che c'hai ragione? È il terzo, vince il terzo. Comunque, tra i due litiganti, il terzo. Di là c'è Diego Cossu che arriverà dopo di te, che conosce dei medici bravi. Io credo che un incontro. Può essere pure piacevole, fate una passeggiata senza canna da questi dottori. Certo, no, ma ci vado senz'altro. Ma che siete tre e non siete due, tripolare tanto. Beh, il terzo è quello che fa da paciere, oppure che ti mette anche altri problemi tra te e l'altro con cui stai parlando, con te stesso, ma c'è un terzo. Non sapevo che c'avevo tre ospiti oggi qui in studio. Non so più con chi ho parlato, se col mio amico Massimo D'Apporto, l'attore Massimo D'Apporto, l'uomo che va a pesca Massimo D'Apporto. E qual è la cosa che avresti voluto fare ma non hai fatto, visto che manca un minuto e mezzo? Che propositi hai per questo, per questi anni nuovi che arriveranno? No, guarda, forse il lavoro mi piace, non mi piace come organizzato e da chi siamo circondati attualmente, per quanto riguarda sia il teatro che la televisione. Non mi piace molto quello che sta succedendo, e allora se mi capita di lavorare lo farò. Devono essere cose buone, se no me ne vado sull'isola, tanto c'ho casa a Filicudi e vado a pescare e me ne frego e divento spettatore. Ho fatto l'attore per tanti anni, dal 71 ad oggi, fai il calcolo, sono più di 40 anni 44, adesso, 45 anni e adesso tra un po' incomincerò a fare lo spettatore. Va bene, e noi speriamo invece di essere spettatori di te fra poco. Va bene, ancora grazie. Una volta intanto grazie per essere venuto a questi microfoni, ti auguro ogni bene, come dice l'amico comune Leo Gullotta, tante cose belle a te. Grazie. E a tuo figlio a mezzogiorno e un quarto. Grazie. Con i piedi come i tuoi, alla tua famiglia e a tua moglie ovviamente. Grazie. Voice Anatomy, Massimo D'Apporto, tra poco Diego Cossu e questo viaggio straordinario intorno alla voce con Demetrio Stratos, tra poco. Donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti. Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog. Da lunedì a venerdì, dalle 12 alle 13, su Radio 24. Digital Radio. Flash. Ciao, sono Emma. Ho sentito dire che la Digital Radio è multimediale, è vero? Certo, con le trasmissioni in digitale la radio acquista una nuova dimensione. Oltre all'audio in qualità perfetta, puoi ricevere sulla tua radio immagini, testi e video. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Voice Anatomy. E come promesso, siamo tornati, Voice Anatomy, adesso comincia un viaggio bellissimo, forse il viaggio per eccellenza intorno alla voce. Parliamo di chi ha usato la voce nella maniera più ancora sconosciuta. Per questo al mio fianco ci sarà Diego Cossu, che è un grandissimo studioso, sì di voce, ma anche del grande Demetrio Stratos. Vi racconto qualcosa di lui. 36 anni fa, il 13 giugno 1979, l'artista Estratios Demetriou, italianizzato in Demetrio Stratos, a soli 34 anni si congeda per sempre dalla sua vita e dalla sua passione, la sperimentazione musicale. Timbro inconfondibile, tecnica vocale di prim'ordine, possiede tutto il repertorio di estensione, gamme di frequenze, intensità vocali, produzione di tutti i registri della voce, libertà di espressione, varietà di accenti e una buona dose di follia geniale. Mai nella vocalità contemporanea erano state indagate e frequentate a tal punto le possibilità espressive della voce, signori. Così come non abbiamo mai sentito che la fonazione potesse, oltre che sdoppiarsi, triplicarsi, addirittura quadruplicarsi, tanto per far coniare per lui il termine di stratofonia. Bene, prima di cominciare a studiare queste lucubrazioni vocali tecnicamente con l'amico, il grande professionista Diego Cossu, ho al telefono la fortuna di parlare con il tastierista storico degli Area, il gruppo che è stato fonte di ispirazione, fonte di grande produzione professionale degli Area negli anni 70 fino alla fine, fino al 79, non voglio sbagliare, subito dopo la grande avventura con i Ribelli. E allora abbiamo al telefono qui Patrizio Fariselli. Patrizio, buongiorno a tutti. Testimone oculare, e non solo testimone oculare, ma testimone proprio anche di voce del grande Demetrio Stratos, con cui avete fatto una passeggiata lunga, lunghissima, finita in quel grandissimo concerto, in quel live a Bologna del 79, poco dopo proprio la scomparsa improvvisa di Demetrio Stratos. Quel concerto serviva ad aiutare Demetrio in questa lunga battaglia, che doveva essere lunga battaglia contro questa malattia che invece l'ha portato via, ma il concerto si tenne e fu un grandissimo successo, tuttora mai superato. Patrizio, che tipo era? Che cos'è? Chi era Demetrio Stratos? Demetrio era una bella persona, di grandissimo talento, dotato di un'intelligenza musicale notevole e soprattutto di una curiosità insaziabile nei confronti della propria arte e delle proprie possibilità. Infatti fu questo, io ritengo, il motore alla base della sua ricerca. Una delle frasi che lui amava dire era: io voglio sapere tutto quello che è stato fatto al mondo con la voce. E quindi divenne un ricercatore, che sperimentava di prima persona tutte le tecniche che acquisiva. Quindi le diplofonie di cui tu parlavi sono tecniche nate nelle steppe della Mongolia e che poi lui adattò alla sua sensibilità e alla sua cultura, portandola agli estremi, frequentando lo studio di foniatria di Padova per capire da dove veniva la voce, cosa poteva fare, cosa stava succedendo in lui mentre produceva questi suoni. Insomma, un'avventura entusiasmante, stroncata nel momento in cui gli si aprivano le porte del Gotha della musica contemporanea negli Stati Uniti, perché Cage l'aveva voluto. Eh sì, vero. A New York, e lui era l'unico allora che faceva a questo un grande livello queste sperimentazioni. E la morte l'ha colto in quel momento. E tu parlavi del concerto, che ti correggo, non è stato a Bologna ma a Milano, all'Arena. Fu per noi una beffa terribile, perché serviva quel concerto per tirare su soldi per le sue cure, perché lui era ricoverato proprio a New York, e tu sai che gli americani, queste brave personcine, se tu non paghi la retta, sai come stai, ti rimandano a casa o ti lasciano morire lì, magari. Proprio lì, ti mettono proprio per la strada, sì, al parcheggio dei taxi, se al massimo. E quindi noi facciamo questo concerto e lui muore praticamente pochi giorni prima. È diventato una cosa straziante e anche commovente per tanti versi, perché mai ho visto in Italia un movimento di solidarietà nei confronti di un artista come avvenne allora. Beh, perché ricordare tutti quelli che hanno fatto parte del concerto ci vorrebbe veramente un'altra trasmissione, perché c'eravate tutti. Lui disse una cosa molto bella per gli Area, proprio lo disse in uno speciale alla RAI nel 76, disse: questo gruppo ha 4 anni di vita, e anche la sua musica, chiaramente. Vuole coagulare diversi tipi di esperienze, fonde jazz come il pop, la musica mediterranea, la musica contemporanea elettronica. La problematica qual è? Abolire le differenze che ci sono fra musica e vita. Gli stimoli che trae questo gruppo vengono direttamente dalla realtà, trae spunto dalla realtà e dalla strada, chiaramente. Beh, voi avete fatto veramente in anticipo su tutto, molto, molto avanti, una musica che va dal rock progressivo, al free jazz, alla musica elettronica, alla musica etnica, sperimentazione. Ma veramente, come vi siete trovati? Scusami. Ma, guarda, come ci siamo trovati è una storia lunga, però sì. Io posso dire di ritenermi un uomo fortunato, di essere capitato al posto giusto con le persone giuste per vivere un viaggio che è durato 10 anni, che ha segnato la mia vita e anche quella di tutti i membri del gruppo in modo indelebile. E quindi io non so se eravamo avanti o indietro, per noi era naturale, sì. Era naturale proprio esplorare a fondo il nostro talento il più possibile, insomma, esaurire le cose che avevamo da dire. E quindi, comunque stanno riuscendo, io vedo in ogni negozio, io amo la musica, ovviamente faccio questa trasmissione amando tutto ciò che si sente, no? Dalla voce alla musica, e c'è una grandissima riscoperta anche dei vostri album, di Demetrio Stratos, c'è grande interesse, si sta rimuovendo intorno. Io mi sono riacquistato, lo dico a voce alta, proprio delle vostre collezioni che sono uscite ultimamente anche in forma di limited edition, bellissime, dei vostri LP. Mi piace tanto il vinile ed è riuscito tantissimo, sì, questo. Da Crack a Cramps Maledetti, Tic e Tac, Chernobyl, Caution Radiation Area. Scusa la pronuncia, ma io vi invito veramente ad ascoltare questo rock progressive straordinario, veramente. Ma no, stava davanti, te lo posso garantire. Avanti, avanti, avanti. No, è una bella edizione questa. La Sony ha acquistato tutto il nostro catalogo e adesso lo sta ristampando, ma la cosa interessante è che noi in prima persona, cioè chi sopravvissuti, io Paolo Tofani sostanzialmente, perché questo gruppo è stato falcidiato dalla, diciamo, sfortuna, abbiamo avuto molte perdite oltre Demetrio, Evi Busdello, Giulio Capiosso, quindi insomma molti lutti abbiamo dalla formazione originale, che se non sbaglio c'era, ecco, Paolo Tofani, Demetrio Stratos, Giulio Capiozzo, Ares Tavolazzi e Patrizio Fariselli, insomma, esatto. Questa era la formazione. Dimmi. Che queste edizioni che adesso tu hai acquistato sono state rimasterizzate, sì, personalmente da noi, che è una bene, cosa fatta bene, insomma, con amore, e abbiamo semplicemente adattato quel tipo di registrazione, quel tipo di suono ai sistemi di ascolto moderni, quindi devo dire che suonano veramente in modo pesante. Ve lo posso confermare, sono un pazzo di queste cose e si sentono bene, anche i miei figli cerco di fargli sentire la differenza anche che c'è fra un CD o un LP, come si chiamavano prima, è la profondità del suono, è come noi quando registriamo in sala di doppiaggio o qualsiasi altra voce, quando troviamo quel microfono valvolare antico davanti a noi siamo più tranquilli perché riesce a cogliere anche un po' quel pizzico d'anima, quei 21 grammi in più, così si dice che pesa l'anima, in più rispetto a un transistor o a un altro modo moderno di acquisire voce e musica. Patrizio, senti, ti ringrazio tantissimo di questa testimonianza prima di cominciare un viaggio a ritroso nel tempo con Diego Cosso. Io ti ringrazio, ti abbraccio e spero vivamente che molta gente si metta ancora intorno a voi. Ci avete raccontato delle storie fantastiche, ma sono ancora avanti anche ascoltandole adesso, pensa. No, va bene? Ringrazio te e la pazienza degli ascoltatori. Patrizio, ciao, auguri, buon anno e buona vita, davvero. Grazie a Patrizio Fariselli, testimone oculare e uditivo della vita di Demetrio Stratos. Il mio amico Diego Cossu è stato qui attento insieme a me ad ascoltare la sua viva voce e fra un po' ascolteremo la voce di Demetrio, la musica e soprattutto le spiegazioni tecniche da parte del nostro grande professionista. A tra poco con Voice Anatomy. Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Vi presenta. Recupera, recupera, recupera, recupera. Ha vinto, ha vinto. Straordinaria impresa di Mennea. Ferma Scirea, Bergomi, Gentile, ha finito, campioni del mondo, l'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia si trova il santuario di Zeus, perché grazie all'esistenza di questo santuario sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Sono Dario Ricci, vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, con i suoi miti, le sue verità, i suoi segreti, ogni domenica alle 20.30, qui su Radio 24. Voice Anatomy. Che bello, con il grande Diego Cossu che è al mio fianco ormai dall'inizio della trasmissione, fra varie pilloline della sua Gaia Sapienza, perché è così, perché lui sorride sempre, non lo vedete, ma è una persona splendida e vi auguro di trovare sempre medici con questo sorriso, perché prima dalla medicina arriva il sorriso del medico. E abbiamo cominciato questo viaggio con... per parlare di Demetrio Stratos con Patrizio Fariselli, suo tastierista delle aree almeno, e invece con Diego ricominciamo da capo. Chi è Demetrio Stratos, Diego? Non c'è riuscito Patrizio Fariselli a dare una sua un'etichetta. E beh, Demetrio Stratos è un coacervo di persone che hanno in cima il loro capo come il ricercatore vocale. Che poi abbia fatto il tastierista, che abbia fatto il cantante, che abbia fatto la voce dirompente in quel periodo storico. Adesso faremo sentire delle cose importanti per far capire perché parliamo così tanto di un cantante. Intanto Diego, oltre ad essere un rinomato vocologo e professore presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Torino e presso il Conservatorio Paganini di Genova, perché... bella questa unione, lui è un grande musicista, oltre ad essere un grande medico, è responsabile dell'ambulatorio di voce e deglutizione dell'ospedale Santa Croce di Moncalieri, è responsabile eccetera eccetera di tante cose, insomma. Oggi noi, tu poi hai scritto un libro, no? Sei in veste di coautore di questo libro, sì. E documentario Oltre la voce Stratos, edito da Feltrinelli. Torniamo a Demetrio Stratos, perché insomma è difficile capire. Io vi invito anche ad andare in internet, aiutarvi con questi racconti, questi documentari, per scoprire un mondo dove la voce la fa da padrona proprio. Pino, la cosa più incredibile è che noi ne stiamo parlando adesso che siamo nel 2016, ma lui era un... è ancora adesso dirompente. Sì, pensati, sì. Cosa poteva essere ai tempi in cui... il massimo dell'espressione vocale dirompente di quel tempo erano i Cugini di Campagna, sì, sì, Fausto, certo. Leali, certo. Con la voce di falsa corda, o Pauline che faceva queste voci angeliche falsettate. Lui ha proprio lasciato a un certo punto la musica. Lui ha fatto I Ribelli, poi gli Area, sì, con le canzoni anche famosissime che gli ha fatto anche Mogol e Battisti, meravigliose. Poi ne ascolteremo qualcosa. Ma la sua strada era proprio quella per il quale abbiamo sentito prima Patrizio Fariselli. Lui era uno sperimentatore vocale, quindi se vogliamo dare un tag, un'etichetta a quest'uomo, possiamo chiamarlo poeta, musicista, compositore, ma secondo me soprattutto c'è lo sperimentatore vocale. Cioè lui, in un periodo in cui esisteva musica squisitamente melodica, cade in un periodo storico in cui c'era necessità di dare un taglio a queste cose che erano a questa musica che era diventata quasi un cliché. Sì. E quindi lui, forte moltissimo del suo essere, perché ricordiamo, lui è nato ad Alessandria d'Egitto, sì, da genitori greci ortodossi, è stato esposto fin da piccolo alla liturgia bizantina, quando c'è stato il colpo di stato di Nasser nel, non mi ricordo, 57 mi sembra, lui l'hanno preso e l'hanno portato a Nicosia, a Cipro, da lì poi ha studiato pianoforte, ha studiato musica e poi si è, con tutto questo bagaglio culturale multietnico, e quindi era già partito con una qualità propria immensa, lui è atterrato in Italia. No. È atterrato in Italia e ha visto effettivamente che, sì, perché lui è andato a Milano, ha studiato a Milano, ha fatto il Politecnico, e però la sua mente era avanti, molto avanti, e la sua mente musicale era addirittura avanti adesso. Tuttora studiano, ma non riescono a capire questa polifonia. E adesso, poi tu me la spiegherai tecnicamente e faremo ascoltare anche qualcosa, certo, e far capire alla gente assolutamente, perché stiamo parlando di quest'uomo. Vedi, lui ha incarnato la persona che ha demolito il sentire comune della musica come una forma classica di esecuzione vocale. Lui ha smontato tutto, ma ha smontato tutto con un principio di grande intelligenza musicale. La grande chiave della sua ricerca musicale è la nascita della figlia, Anastasia. Anastasia, nei primi 2-3 mesi, come tutti i bambini, ha iniziato a lallare. La lallazione è un momento importantissimo. So di parlare al papà, quindi benissimo. Sì. Che anch'io sono in quel periodo di lallazione, perché ancora mi faccio capire emettendo dei suoni. Adesso ascolta che la lallazione non è nient'altro che l'espressione di un infante. Infans vuol dire colui che non parla. Altra scoperta. Infante, e il fatto che il bambino in quel periodo esplori completamente la propria voce come elemento di comunicazione con l'esterno. E allora Demetrio Strates, guardandola, ha capito che quella era la vera realtà vocale, cioè il recupero di tutto quello che si poteva fare con la voce. Mentre il recupero invece, ancestrale, lui ha detto, quando il suono viene venduto per creare la parola, viene deprivato del suo elemento fondamentale, che è quello interno. E allora lui cosa ha iniziato a fare? Ha iniziato a fare un discorso alla rovescia. Andiamo a ricercare quei suoni per andare a cercare una sorta di equilibrio interno. Non per niente i mantra, le meditazioni trascendentali, nascono proprio con un suono che non è una parola, riflette quello che in ebraico si chiama il kol, il ruah, il respiro, ed è quello che ha fatto di Demetrio Stratos la persona che per primo ha iniziato a capire che si può cantare in ispirazione, quindi riuscire a sentire, a emettere dei suoni come quelli che vorrei che sentiste in questo momento. Spiegami. Capisci che siamo un uomo posseduto, invece è un'operazione difficilissima. Ispirazione. Lui sta parlando in ispirazione. Ecco, proprio il fatto di pensare che la voce è da sempre stata dall'interno verso l'esterno. Pensare che invece tu sei una persona che utilizza tutte le tue caratteristiche, non solo vocali, ma anche del tratto sovraglottico, quindi del tratto risonanziale, partendo dalla bocca verso l'interno. La bocca in latino si dice os, oris, orifizio, e tutto questo serve per definire una via di ingresso e una via di uscita. Allora, perché non pensare dal punto di vista sperimentale? Anche noi quando piangiamo, esatto, parliamo in ispirazione, quindi è un recupero ancestrale importantissimo, e il suo plus in questo è stato che questi si chiamano criptomelodie infantili, ed è proprio l'infantilità, questo, che bel castello, l'abbiamo capito, certo, tutti, no? È proprio l'infantilità del messaggio che riporta ancora più indietro a quei suoni che sentivamo quando eravamo probabilmente anche dentro la pancia della mamma. Ecco, la grandezza, secondo me, e l'attualità grande di Demetrio Stratos è che ha fatto silenzio esterno e ha iniziato a sentirsi dentro. Ecco perché è così tanto attuale, perché adesso noi viviamo in un mondo che è tutto esteriorizzato, colori esterni, e credimi, caro Pino, solo il canto di questo tipo può permetterti di guardare dentro uno specchio per te, e infatti lui ha impiegato tanti anni per capire come funzionava. E poi quando non c'è più riuscito con la volontà, è andato da qualcuno che ha supplicato: ti prego, spiegami cosa mi sta succedendo dentro. Peccato che la foniatria era all'inizio della sua storia e nessuno è mai riuscito a vedere le sue corde vocali mentre stavano facendo quelle meraviglie. E quando lui andò, dopo aver passato il suo periodo musicale, diciamo classico, con Ribelli e Area, ha poi lasciato tutto e è andato e approdato a Padova, al CNR di Padova, ha incontrato quel grandissimo professore che era Lucio Croatto e un grandissimo fisico acustico che era il professor Ferrero, e loro avevano solo un oscilloscopio, non avevano niente di più. ma noi siamo stati fortunati perché hanno registrato tutto sulle cassettine, quelle vecchie. Esiste, certo, esiste tutto. E io ne ho la testimonianza. Abbiamo qualcosa qui? Assolutamente, andiamo col secondo contributo. Spiegami, capisci, un attimo, che tutto perché... quello che succede dentro una laringe è una cosa, tutto quello che succede sopra la laringe è un'altra. Sono due suoni, escono, sono, no? Due suoni, infatti il termine corretto per questo, che attualmente viene conosciuto come overtone singing, cioè canto sugli armonici, sì. Realmente si chiamerebbe suono difonico, da difonico. Non confondere col suono diplofonico, che invece è una forma patologica. Il suono difonico invece, che è quello che utilizza Stratos, non solo lui, ce ne sono stati tanti altri, è un suono che non ha corrispondenti in patologia, cioè un suono realmente fatto solo dalle cavità di risonanza. Sì, ma è veramente, come diciamo prima, questi suoni di questi signori in Tibet, su, esatto, queste alture. Sì. Ecco, lui, volevo dire, perché è una cosa importante, lui non ha mai connotato in modo liturgico, sì, o religioso il suo canto. Lui l'ha sempre fatto veramente come un semplice solo ricercatore. Però non avevamo noi, come foniatri, gli strumenti per poter obiettivare quello che succedeva. Certo. E quindi abbiamo dovuto aspettare qualche anno, fino a che non abbiamo inventato quello che si chiama l'LPC, cioè Linear Predictor Code, che è un sistema al computer per riprodurre virtualmente, lo spiego in quattro parole, la struttura di quello che abbiamo sopra le corde vocali, senza usare le corde vocali. Signori, Diego Cossu sta dando veramente l'anima tridimensionale a questa trasmissione, che si chiama Voice Anatomy. Devi farti spostare da Torino in un ospedale a Roma, così potrei essere qui con me tutte le domeniche. A tra poco con Voice Anatomy. Ciao a tutti, sono Enrico Ruggeri. Anche questa settimana grandi storie a Il Falco e il Gabbiano. La genialità ribelle di uno che vedeva il calcio a modo suo, Eric Cantona. Una grande voce che continueremo a ascoltare a lungo, Giuni Russo. L'uomo che ha insegnato a leggere a tutti quelli che non potevano farlo, Louis Braille. Tra cinema, gioco, donne e avventura, la vita di Omar Sharif. Una vita sfavillante e piena di misteri, Amanda Lear. Tutti i giorni alle 15:30, naturalmente su Radio 24, vi aspetto con Il Falco e il Gabbiano. Tutti i pomeriggi dalle 16:30 alle 17 su Radio 24, Oscar Giannino vi aspetta con la versione di Oscar. La versione di Oscar non in realtà non è il punto di vista di chi vi parla, è soprattutto la serie delle storie strane, singolari, che contraddistinguono la nostra vita di cittadini di fronte a uno Stato che molto spesso ci tratta da sudditi, la storia di come vanno le cose nell'economia e nella finanza italiana, la storia delle tante parti d'Italia in cui questa crisi per anni si faticherà in realtà a farla tornare a dei livelli di reddito, prodotto, investimenti necessari davvero a restituirci a quello che eravamo nel 2008. Tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì alle 16:30 alle 17 su Radio 24, la versione di Oscar. Non mancate! Voice Anatomy. È il modo migliore per cominciare un anno nuovo scoprendo o riscoprendo un grande della voce, dello studio della voce, come Demetrio Stratos, e chi meglio, a parte la testimonianza del suo tastierista degli Aerea, Patrizio, e abbiamo qui invece Diego Cossu che ci sta raccontando in maniera anche molto, io ti guardo con molto fascino, spero che, e ti ascolto affascinato, dall'altra parte possono soltanto ascoltarti con questo fascino, perché ci stai prendendo per mano e accompagnando in questo labirinto della voce che era quella di Demetrio Stratos. Lo abbiamo sentito in qualche vocalizzo particolare, ci stavi spiegando cosa significa questa difonia. Io volevo far ascoltare invece dove tutto è partito, perché lui è stato anche un cantante leggero, pop di, certo, successo con i Ribelli, e c'è una canzone, Pugni Chiusi, che qualcuno magari della mia generazione si ricorda un po' di più. Vai, Alessandro. Chiusi, non ho più speranze, in me c'è la notte più meravigliosa. era un cantante. Sì, sì, sì. Non si pensava poi dove sarebbe arrivato il suo studio ancestrale. Ma tu l'hai detto, è staccatutto con la nascita della figlia, no? Ma pensa che lui faceva il tastierista, non è che cioè, al canto ci aveva pensato relativamente poco. E soltanto quando ha avuto un incidente, quello dei Ribelli, il cantante dei Ribelli, lui ha detto, beh, mi tocca cantare, canto io. E da quello è stato proprio là. Quante sliding doors nella vita, veramente. Se non fosse. Lo so, questa non è la vita di tutti, mica soltanto nella vita musicale. Certo. Insomma, nel bene e nel male queste sliding doors. Andiamo a vedere doors. Le porte che si aprono e si... Lasciamo stare. Esatto, è un'altra trasmissione. Si chiama Doors, non Boys Anatomy, Doors Anatomy. Ed è fantastico anche pensare che a distanza di tanto tempo lui sia ancora materiale di studio da parte nostra. Sì. Certo, attualmente abbiamo delle metodiche molto poco invasive per poter vedere come funzionano le corde vocali, ma non è possibile comprendere la difonia se si parla solo di corde vocali. La difonia non è nient'altro che un'abilitazione del sistema sovraglottico, cioè tutto lo spazio che c'è sopra le corde vocali, che viene configurato, diviso dalla lingua, dal palato. Come si fa? Esistono degli esercizi, certo. Attualmente una delle le tecniche ci sono codificate, e uno degli insegnanti di Demetrio Stratos, che abbiamo ancora adesso, è Trang Wan Khai, è stato uno dei quelli che ha codificato questo. Dal nome mi sembra che non sia residente non in è, Italia. Non è proprio romano, non è neanche torinese. È vietnamita. Difficile invitarlo qui con te la prossima devo volta. Devo dire che è piuttosto complesso, anche se lui è una persona estremamente disponibile e sta moltissimo in Italia, anche perché moltissimi degli studi su Demetrio Stratos e sulla difonia sono stati fatti in Italia. Avvertimi quando torna questo signore, si chiama Trang Quang Ai, Kai. Cioè, Trang Quang Ai, adesso la pronuncia non so perché il vietnamita ce l'ho un po' indietro, l'ho studiato qualche tempo, non è vero. Sì, anch'io l'ho perso perché prima lo parlavo correntemente a casa. Esatto, immagino. E quindi è importante che lui è stato un grande musicologo ed è un grande musicista ed è un grande sperimentatore, quindi su di lui ha sperimentato tante cose. Demetrio Stratos andò da lui, e questa è una storia che gira, conosciutissima, andò da lui gli disse, maestro, mi insegni a fare queste cose. Lui stette con il maestro 2 ore, alla fine Trang Wan Khai disse, da me ha imparato tutto. 2 ore. Questo voleva dire che ovviamente c'era una forma di predisposizione, certo, all'introspezione, perché questo tipo di canto è un canto che si fa in silenzio, che si fa con se stessi, e richiede proprio una grande abilità propriocettiva, una grande meravigliosa respirazione, perché alla base di tutto questo fenomeno c'è uno strumento a fiato, in cui come funziona? Te lo posso spiegare in 4 parole. È come avere percettivamente un bordone, cioè un pedale d'organo molto basso, generalmente con una frequenza piuttosto grave, sul quale viene costruita una sovrarmonica che viene necessariamente dipendente, per ragioni fisiche molto difficile da spiegare in radio, e che deve essere legata alla frequenza della fondamentale, per cui si sentono 2 suoni distinti. Uno piuttosto basso, grave, e l'altro invece col quale si può lavorare, si possono spostare, si possono spostare i suoni. E quando tu riesci, perché ognuno ha la propria conformazione, ognuno ha il proprio strumento, certo, no? Riesci a utilizzare le parti molli, le guance, la lingua, e riesci a creare delle camere più piccole all'interno del tuo spazio sovraglottico, le metti in risonanza. Andando in risonanza tu hai percettivamente 2 suoni, ma per una ragione, si chiama terzo suono di Tartini, puoi aggiungerne un terzo. È trifonia questa? E questa diventa una forma polifonica a tutti gli effetti. Certo. Poi c'è l'utilizzo non soltanto dello sfintere glottico, quindi le corde vocali che si adducono normalmente, ma l'utilizzo anche di uno secondo sistema vibrante, che sono le false corde. Utilizzate con sapienza possono diventare un secondo vibratore, e quindi abbiamo le corde vocali e le false corde. 4 mani, nel senso tu c'hai 2 mani, ma puoi utilizzare altre 2 mani. Esattamente. E fare cose così. E lui cercava questo, cercava fondamentalmente come chiudere gli occhi e ottimizzare il proprio strumento. Ecco, questa è stata la sua vita, la sua parte finale della vita. È ovvio che questa ricerca era veramente una novità incredibile in Occidente. Fai conto che la difonia come caratteristica etnomusicologica esiste da non sappiamo quanto, ma noi l'abbiamo scoperta da pochissimo. Sai chi è stato il primo che ha detto e l'hanno preso in giro per una vita? È stato Manuel García Padre, che è quello che ha per primo si è infilato un laringoscopio, uno specchietto in bocca, e con un altro gioco di specchi è riuscito a vedere delle cose che vibravano. Ecco, devo dire, a dispetto dei foniati e degli otorrinolaringoiatri, che noi la prima volta che siamo riusciti a vedere le corde vocali ce la guardate un cantante. Quindi, prima di dire che i cantanti non ci arrivano, devo dire attenzione che il cartello dei foniatri si rivolterà contro ma lo sanno, no, no, lo sanno, lo sanno. Ma è bello che insieme cominciamo questa sperimentazione. Per cent'anni l'hanno preso in giro, eh? Sentiamo, ha portato delle cose Diego Cosso, delle testimonianze. Sì, sì, vuoi sentire le tue o vogliamo far sentire la voce di Demetrio Strato? Sentiamo ancora un contributo. Il terzo contributo di Diego. Stavi spiegando prima, quella base grave sopra, sì, questa armonizzazione. Esattamente, no? Questo come si fa? Come si fa? Questa è la base dello scaccia pensieri, cioè questo, sì, vuol dire che io posso fare un suono tipo e poi con questo qua fare, è semplicemente una matita su una guancia. Sì, adesso non sapete, ma si sta picchiando su una guancia, sta... Questo vuol dire che si può fare musica, si possono fare frequenze riuscendo a trovare utilizzare, quelle stanze. Trovando queste stanze. E le corde vocali non stanno funzionando. Ecco, mettere le corde vocali come vibrazione di base, il pedale dell'organo, sì, e poi utilizzare le strutture sovraglottiche, sembra facile, non è assolutamente facile. Ascoltare queste cose mi viene voglia, sai cosa? Di smettere di fare questo mestiere. Lo fai benissimo. Sai, ti trovi di fronte a questi... Veramente, quando io dico con grande orgoglio navighiamo attraverso tutte le sfaccettature della voce, questo esercizio di stile sulla voce, e poi mi trovo a navigare adesso con te in queste mari e mi accorgo che io stavo a riva, che sì, sono arrivato fino a dove non si tocca, ma diciamo che se spingo il pollicione in basso tocco ancora. Invece qui siamo a mare aperto, aperto. Eppure Demetrio Stratos aveva una voce parlata normalissima, lui ha insegnato moltissimo, perché poi ha cercato in tutti i modi di rendere questo suo sapere quanto più didattico possibile, perché non morisse con lui, e viva Dio, abbiamo questo delle non è testimonianze, successo. Alessandro, sì, sono intervallati i nostri tecnici del suono, e allora Alessandro, c'è una delle cose con la voce di Demetrio, sentiamo un po' cosa da dirci proprio lui. Ci sono in realtà molti modi di cantare. Qui si cerca di abolirli, di distruggere, di sganciare la voce dalle sue ipoteche espressionistiche. Cioè, un cantante lirico, il bel canto, viene intrappolato all'interno di uno stile. Cioè, cosa succede? Che si sviluppano i muscoli in una direzione. Non si può fare qualche altra cosa. Do un esempio. Se io dovessi fare ginnastica facendo il peso sulla mia mano sinistra, sviluppo la mia mano sinistra e non sviluppo niente dall'altra parte. Quindi io devo cercare, facendo questi esercizi ai limiti del linguaggio, cercare di passare tutto il mio corpo, tutto attraverso la lingua. E questo è il discorso. Il perché, cosa sente uno quando si fa queste cose? In realtà tu si sente bene, si sente un po' una liberazione, se vogliamo, no? Di queste cose qui. Quello che abbiamo fatto sentire prima, la diplofonia o il canto difonico, gli armonici, è molto importante, perché un'altra cosa importante attaccata alla voce è l'orecchio. L'orecchio è molto importante, è fondamentale, che di solito si perde. Noi abbiamo, quando attraversiamo la strada, abbiamo un sacco di rumori, l'orecchio invece di sentire fino a 20.000, oggi in un tipo di società come la nostra sentiamo la metà. L'orecchio è molto importante, perché si riesce a sentire internamente, che non è un discorso teologico, cioè la voce non è l'orecchio come si pensava in teosofia o in teologia. Quindi qui c'è la voglia a livello umano di misurarsi praticamente con quello che non si può. Cioè non è una proposta, non è una possibilità indiscriminata, qui c'è la voglia di misurarsi con quello che si può, che sono i limiti interni umani, questo è il discorso. Ecco, i limiti interni umani. È fantastico. È come se avesse commentato quello che tu hai raccontato finora, se ci fai caso. No? Ma è questo il diciamo che se vogliamo ridurre all'osso il discorso Demetrio Stratos, è cercare, e quando hai trovato, cercare quello che ti manca. La leggenda narrava pure a un certo punto che la sua malattia, la sua leucemia, fosse stata provocata da questa ricerca spasmodica del significato della voce, no? Lo raccontavo, c'era una follia. Come se il dio della voce, questo dio greco, si fosse impossessato di Demetrio Stratos, se l'avesse portato fino a consumarsi a livello fisiologico. È una visione romantica, della malattia, esattamente, che invece è stata dirompente. È stata dirompente, quindi insomma più che altro è stato dirompente il modo in cui talmente plateale che poi queste 60.000 persone che si trovavano a Milano per raccogliere danaro per la sua malattia, poi a un certo punto hanno semplicemente commemorato in quella giornata, ed è stato, credo, da un aiuto è stato un tributo, credo che sia stato come succede per gli eroi, no? Sì. È stato forse il modo più eroico di lasciarci, ecco. E vi consiglio, perché è uscito adesso rimasterizzato questo grande concerto del 1979 proprio in favore di Demetrio Stratos. Ancora un blocco insieme prima di salutarci con Diego Cosso, e poi magari c'è anche un piccolo intervento di grande testimonianza del grande Demetrio Stratos. A tra pochissimo, Voice Anatomy. Voice Anatomy. Ma che bel viaggio, non avrei trovato un modo migliore per cominciare quest'anno con un argomento migliore. Demetrio Stratos, la voce, e soprattutto il racconto che ci sta facendo Diego Cossu, da musicista, da medico, da amante di tutto ciò che rappresenta il suono, e io credo che stia arrivando un po' dappertutto. Dove siamo arrivati, caro Diego? Beh, percorso che dovremmo riaprire, secondo me. Parlare in così poco tempo di un fenomeno così importante come quello di Demetrio Stratos è ovviamente limitativo, ma il focus, secondo me, del nostro ragionamento è quello di che cosa lascia come eredità di ricerca questo grandissimo musicista, strumentista, poeta, come abbiamo detto all'inizio, e la necessità, la voglia di uscire dagli schemi tradizionali, quelli musicali, quelli sociali, e andare a recuperare un linguaggio universale. Mi è venuta in mente una cosa mentre passava la pubblicità, che effettivamente se ci pensi, no, la voce ha una valenza abbastanza simile in tutte le lingue del mondo, no? Stratos conosceva bene ad esempio la parola suonare, no? In inglese suonare si dice to play, quindi giocare, jouer. In francese anche recitare, no? Bravissimo, quello. Esattamente, ma in tedesco si dice spielen, che è la stessa identica cosa come traduzione, nello svedese spela, che è la stessa identica cosa. Ma perché cosa? Da noi no? Non lo so. Vabbè, ci prendiamo un po' sul serio. Evidentemente, ecco, lui cercava veramente, al di là di queste sottigliezze terminologiche, effettivamente lui cercava di recuperare l'universale, cioè lo zoccolo, il primo tassello. Il Big Bang. Il Big Bang vocale. Lui cercava di tornare indietro al Big Bang vocale. E possiamo sentire adesso, sì, nell'ultimo contributo che ho portato, come lui realizza un altro tipo di suono, sempre di fonico. È pazzesco. Cioè, una sirena, sembra una follia, sì, ma no, stiamo studiando veramente la voce, e questo è proprio la cosa più... E sai, sentirlo così, d'amblè, diventa... Sì. Uno rimane un po'... Ma se sotto c'è veramente questa sorta di ricerca importante, ricerca della radice, allora questo assume veramente un significato etnomusicologico molto molto molto importante. Questo può essere un verso di un bambino, può essere un ululato animale, ed è quel significato comunicativo universale che non ha bisogno, ecco, della parola, ma ha bisogno solo del suono. Ecco, lui sfronda il significato, la sovrastruttura del suono che è la parola, toglie la parola e lascia il suono come elemento fondamentale. Io sono ancora uno di quelli che pensa che la voce umana non sia nata con la parola, ma sia nata col suono. Quindi che sia una forma di modulazione la voce sul quale poi è nata la parola. La parola. È fondamentale, tant'è che il bambino esprime tutti i suoni possibili e immaginabili che poi è esposto alla lingua materna, paterna, alla lingua familiare. E tu riesci a tradurli poi, toglie, li capisci. Toglie. Ricorda che la nostra struttura fonetica è togliere tutto quello che noi, ciò di cui non abbiamo bisogno nell'espressione, ad esempio, dell'italiano, dell'inglese, del tedesco. Quindi l'esposizione a una lingua non è nient'altro che selezionare i fonemi, selezionare la modalità fonatoria con l'apposizionamento della lingua. Ecco perché è così difficile impararlo dopo che siamo diventati grandi. Certo, il momento magico dell'apprendimento è passato. Assolutamente. E lui Demetrio Stratos voleva recuperare questo. Ed è la cosa più importante. Che bello. Ci ascoltiamo, Alessandro, l'altro intervento invece, proprio dove Demetrio Stratos fa un piccolo esempio, esatto, di come due consonanti si sovrappongono. Uno studio su due consonanti, la N e la L, mi dà una differenza, il tratto differenziale di questo mi dà due suoni. Io faccio la N, pronuncio la N, faccio una voce, cioè propongo una voce vettoriale. Questa è la N. Il passaggio dalla N alla L mi dà due voci. Faccio ancora. Passaggio mi, ecco, dà l'armonica. Potete immaginare nel 70-75 una persona che faceva questo era veramente e poi aveva quell'alone di mistero, perché aveva veramente una impossibilità di essere carpito immediatamente. Cioè, per sentire questa voce tu dovevi privarti del tuo sistema critico ed entrare in contatto con qualcosa che avevi dentro e lo interpretavi come parte ancestrale di te. Questo effettivamente perché catalizza così tanto l'attenzione, perché ha un alone di magico, di mistero, ed è quello fondamentalmente che ci ha lasciato lui. Cioè, andate a scoprire, perché io non ce l'ho fatta. E ancora state ricercando. Andate a scoprire. Invece una cosa succedendo, bella che abbiamo ricercato e trovato, grazie sempre all'amico Diego Cossu, è insomma finire forse la persona più vicina a Demetrio Stratos. Stiamo parlando di sua moglie Daniela, che è al telefono con noi. Io la ringrazio e ringrazio Diego di avermi dato la possibilità di questo contatto. Daniela, mi dica. Salve Daniela, e noi stiamo facendo una trasmissione che è sulla voce, Voice Anatomy, uno studio sulla voce, e sembrava insomma giusto dedicare una puntata al grandissimo Demetrio Stratos, e allora abbiamo pensato anche di disturbarti o disturbarla, diamoci del tu Daniela tranquillamente, e cominciare quest'anno nuovo con una testimonianza di chi la sua voce l'ha studiata, l'ha percorsa e ci ha lasciato un testamento, un'eredità meravigliosa. Daniela, com'era l'uomo Demetrio? Era un ricercatore, era un bambino, era un uomo che ricercava in ogni meandro le sue origini. Com'era l'uomo Demetrio Stratos? Ma noi ci siamo conosciuti che avevamo 19 anni, quindi giovani, come era ragazzi. Sì, no, certo, si vorrebbe. Beh, eravamo all'università e è stato lì, insomma, no? E quindi, però, 19 anni sono pochi, ma e quindi siamo cresciuti tutti e due insieme, insomma, praticamente. Vi siete accompagnati, certo. E quindi si è partiti, cioè lui allora suonava in un gruppo studentesco e faceva la musica, quella che andava in quel momento. No, faceva sì, ma già ricercava. Faceva rhythm and blues, già quelle cose lì. Ah. Cioè musica americana e inglese, più che altro una sorta di cover band di quel periodo storico, di quell'R&B. Tutte, cioè, roba della Tamla Motown, quelle cose quelle cose lì, belle. Quelle cosine lì che qualcuno come Stevie Wonder, Ray Charles, insomma, queste personcine. Poi allora ancora non cantava, suonava e basta. Infatti mi diceva l'amico Diego Cossu che per un piccolo incidente da parte del vocalist dei Ribelli, lui dice, vabbè, canterò io. No, non erano i Ribelli, era un gruppo studentesco. Lì ha cominciato a cantare. Quando è andato nei Ribelli già cantava. Un po', sì. Ma è stato per caso, lasciava cantare gli altri. Un ragazzo napoletano che faceva cose confidenziali, lui suonava l'organo e va bene. E da lì poi l'avventura con i Ribelli, dei grandi successi anche popolari, e poi da lì poi gli Area e alla ricerca. E sì, lei... perché voleva fare delle altre cose, voleva andare avanti. Ecco, questo l'ha sempre fatto, di voler andare, di oltrepassare le cose che stava facendo, insomma, di andare avanti. Certo, la sua voce riecheggia ancora nell'aria, Daniela, sta lì. Sì, meno male. C'è, la sua bellissima voce, queste, come vedi, anche queste generazioni. Sì, anche quando era con gli Area, poi aveva chiuso con gli Area per continuare a fare sperimentazione per conto suo, insomma. Sì. Quindi... Allora erano i tempi in cui lavorava più che altro con Cage. Sì, lì ci fu la scoperta da parte del mondo americano. Sì, e poi avevano fatto delle cose ad Amsterdam con Cage, a Parigi. Una vita veramente intensa, nonostante ci abbia salutati troppo presto, ma ha lasciato veramente, come ripeto, una grandissima eredità, ancora patrimonio di tutti noi, patrimonio di, anche dal punto di vista medico, e non parliamo di malattie, ma parliamo di questo studio sulla voce, sulle corde vocali, e infatti Diego è proprio testimone di tutto questo. Daniela, non voglio disturbarti oltre, ti ringrazio di questa testimonianza diretta, ti auguro veramente, ti auguro, serviva questo, soltanto una testimonianza della donna che ha vissuto e che, come si dice sempre, dietro il grande uomo, no? C'è una grande donna, e noi volevamo sentire la voce della grande donna. Grazie Daniela, grazie, buon tutto, ciao, davvero, grazie. Va bene Diego, siamo arrivati, sai, alla fine in questa bella passeggiata, ma ci torneremo sopra perché è affascinante. Me lo auguro, perché la ricerca vocale è fondamentalmente quello che porta avanti poi la nostra... Anche perché ad aprile c'è la settimana, il mese della voce. Sì, c'è alla voce, la giornata della voce, il 16 aprile è la giornata mondiale della voce. Il 17 è domenica, per cui torni qui, o io vengo su da te sicuramente. Facciamoci ritrovare a metà strada, no, esatto. Scherzo. Però abbiamo l'ultimo brano che ci ha regalato. Visto che siamo ancora in fase natalizia, assolutamente, no? Sì. E quale migliore augurio di buon anno, di buona voce a te con questa bellissima trasmissione, veramente non solo da duplicare ma da clonare in giro per il mondo, perché di voce si parla troppo poco, e la prima puntata ho detto che i problemi della voce sono tanti. Più li capisco e meno posso avere problemi. Ci lasciamo augurandoci buon anno con questo meraviglioso regalo in stile di Fonico, che è la cosa più bella del mondo. Di sempre Demetrio Stratos? No, questo è il suo insegnante. Il suo insegnante? Tran Quang Ai. Ah, il vietnamita. Esattamente. E allora, vuol dire alla settimana prossima con Voice Anatomy. Grazie. Intanto, bye.